Buonasera! Buonasera! Buonasera! Stavo imitando Katta. Vendemmia! Benvenuti al ventesimo episodio ventesimo, cazzo! E siamo ancora a quinto livello! Sì. La maledizione di Katta! La maledizione del suo grosso episodio è nella media. Ogni io avevo fatto un level up di statistiche che poi mi è stato tolto. Sì, rubato. Cioè, considerando che siamo partiti al terzo. Cioè. Sì, esatto. No, partiti al primo. Non proprio. Gatta. Tra di noi siamo partiti al primo. Sono partiti al terzo. La metà della compagnia è partita al terzo. Ma infatti magari oggi se vi deste una mossa. Non ho una sigla. Vai, ci siamo. Non è una sigla. Lo attacco. 13. Aspetta. Mettiamo 13. No, su Instagram ti seguo ancora. Ma ragazzi, lo sai comunque la cosa della pizza in pari? Perché non viene a partecipare se vuoi vincere la pizza? Puoi mettere 7 in scala, mica il 9 luglio. Se fai una ripetizione con il mio peso di bicipiti di bilanciere, Arci! Una ripetizione c'è la pizza in pari. Sblocchi la pizza in pari. È impossibile. A 32 parte al momento. Mi allenerò solo per quei. Gial si sta allenando. Sì, e non ce la farà. Al massimo si prenderà un'ernia. Dunque, il massimo che riuscirà ad ottenere sarà ma un'ernia gloriosa, Giulio. Un'ernia gloriosa. Una ripetizione di cosa? Di Carl Bilanciere. Ah, sì, forse devo fare. Beh, una delle farne. Hai capito? Beh, 32 parte. Hai capito? Vuoi la pizza in pane? Si suda, raga. È che voglio una Ferrari, la voglio gratis. Cioè. Tra l'altro, deve fare a ottobre. Sono 64. 72 kg. Una. Prendi me e fai esatto. Per una pizza. Entro ottobre. Entro ottobre. Sì, ma la pizza in pale per loro non è solo una pizza. Dai, facciamo sta pizza in pale. È una specie di evento glorioso. Non posso purtroppo parlare perché è un po' che non vengo. Però se tornerò sarà solo la pizza in pale tipo il radio. No, puoi conquistarla. Prima non c'era neanche la possibilità di conquistarla. Adesso ho deciso. No, Arci, sei un pezzo di merda. Bisogna farla. Cioè, nel senso, è tipo per forza. Comunque, ragazzi, la più non ci si allena, più aumenta la sfida. E più lui sta a casa, più saluta la pizza in pale. No. 9 luglio, qui 13 Pietro. Dove sono i miei dadi che fanno 20? 9 luglio 2006. I tuoi dadi. Che 13 ormai. Non abbiamo una sigla tipo Seven Nation Army oggi che è il 9 luglio, no? Ma se vuoi metti Seven Nation Army oggi. Perché cosa c'è? Magari abbiamo i team mondiali. Sai scegliere come ti faccio le schede la prossima volta io? No, quante serie? 4 serie da 6, da 6 e poi scelgo un esercizio a caso. Puoi finire con questo. Quante serie? Aspetta, i carichi però 8. Li fai tu e faccio io. 8 serie da 11. Guarda il peso. Peso no, i carichi cazzo li faccio io almeno. Che non di 100. Cioè, certo. Beh. Si fanno così i carichi. 300. No, 30. 30. 160. Sì, dai. Ah no, aspetta, scusate. Sono due di 100 mi servono. Ecco. Carichi sono 130. 130 160 6000 non leggi così 110 beh comunque dai non sono i carichi da andare peggio dei 80 quando raggiungerò questi carichi ne parliamo ho dei carichi da bene quindi questa è la sigla che significa che adesso fai il che diventano mille scusate un'altra canzone che fa sentire Black Mirror. C'è qualcuno che sento dentro Black Mirror. Sì, sì. No, questa è bella però. Siamo cosa conosco io. Vabbè, oggi è 13 anni che non è più mondiale. È vero. Oh. 13. Oh. E contro chi Giulio li abbiamo vinti? Oh! Giulio, cosa? Cioè, appunto, sti cazzi. Non c'è frega. Era che tu non vado un cazzo. Non ricordo di più. Dai, ragazzi. Va bene, iniziamo dal protagonista dell'ultima sessione che ci aveva lasciati con questo cliffhanger dove doveva decidere, almeno aveva l'illusione di decidere il suo destino, diciamo così. Ah giusto, chi è che fa il riassunto? Sono fresco! Dove fa il riassunto dalla sua parte e poi qualcuno allora, tornato in città. Tornato in città. Io ero tornato in città con Kevin. avevo trovato il figlio del borgomastro, avevo cercato di convincerlo a uccidere la madre. Ah sì, ora ricordo. Merda, ora ricordo tutto, che casino, no. Però sì, è vero, ho ucciso tutti, giuro, bravo. Però lui non mi ha cagato molto. Chissà perché venendo in qua ho pensato, c'è un pezzo figo, cosa che dobbiamo fare pure con questo? E nel frattempo aveva fatto arrestare e mettere alla gogna un vecchio innocente. Allora io l'avevo istigato ad ucciderlo e lui l'ha ucciso. In quel momento arriva una ragazza che inizia a urlare. Allora io lo istigo ancora un po' di più e lui inizia a darmi la colpa perché dice che è colpa mia. Se è solo, no? Se lui ha ucciso il vecchio. Quando non era colpa mia. Ah, è vero, c'è quella tragedia. Ha detto che era colpa tua, ha detto che avrebbe dato la colpa a te. No, ha iniziato a urlare, guardie, è stato lui, non ha detto che è colpa tua. No, ha detto mi ha obbligato. Guardie, è stato lui, cosa vuol dire? È diverso di chi è la colpa di chi viene accusato. No, comunque ha detto. No, non che io ero stato a ucciderlo, ma che era colpa mia se lui aveva ucciso. Ha detto mi ha obbligato a fare istigazione all'omicidio. Cioè esiste. Vabbè, comunque. Beh, sì. Io non l'ho presa molto io all'inizio l'ho presa diplomaticamente. Sì. L'ho preso in lotta e l'ho alzato per la collotta. L'ho detto, cosa pensi di fare? Lui ha continuato a urlare con le guardie dicendo, è stato lui. L'ho presa molto diplomaticamente e l'ho tipo sventrato. Esatto. Ma adesso ti hanno arrestato, non mi ricordo. No. Mi sono girato per prendermi cura. Mi sono girato per prendermi cura anche della ragazza, ma era scomparsa e non sono riuscito a ritrovarla. Ah, prendermi cura? Ok, sì. In qualsiasi maniera, sì, però, sì, intendo. Quindi ho caricato i pezzetti del cadavere rimasto in spalla e sono andato verso l'abbazia. Lì sono andato all'abbazia, ho chiesto di incontrare l'abate e ho detto, è morto, è successo, è sfiga. E l'abate ha iniziato a farmi il pippone. Un peccato, bla bla bla. Il dio del mattino non voleva. Bla bla bla. Possiamo però rimediare se mi dai dei pezzi del tuo corpo. E la scena era finita così con tu che ci eri contemporaneamente. Tu eri accettato, mi ricordo. No, è rimasto che esatto, deve decidere adesso. E è finita lì, no? Noi però sembrava vantaggioso. Arriviamo in città. Noi arriviamo in città, vediamo la calca di gente intorno a un cadavere di un vecchio. Cos'è? Il vecchio aveva rotto il cazzo, dice guardie... che aveva già capito che era stato Giulio. Non è che era capito lui, ce l'hanno detto di fatto in un certo senso, perché. Ma raga, è stato Giulio, ma aspettiamo tipo sta cosa di vestito sempre. Però mentre ne avevano detto che il personaggio non lo sa per certo. Mentre ne avevano detto che non era sicuro che avremmo dovuto sentirlo dire da lui, tu hai detto è stato lui, ammazzatelo. No, aspetta, ricompongo la storia cronologicamente. Siamo arrivati. Giulio dice di sì. C'erano guardie popolari, insomma, si era creata una folla intorno a questa scena. Di questo cadavere di vecchio alla gogna, tra l'altro, poverino. E una donna che piangeva, una ragazza. Ma che senso ha per un cadavere alla gogna? Era alla gogna. Sarebbe stato divertente. Parlava anche. Che di fatto era una testimone oculare che ha detto. Aia, Giulio, di aver visto. Non l'ho vista. Cioè, ha parlato anche del ragazzo. Quando mi sono girato era scomparso. Allora mi hanno detto. È impossibile che sia stato. La testimonianza di lei ha detto, ha descritto. È arrivata, ha visto quei due e il tizio sgozzato. Quindi ha descritto sia lui che il figlio del borgomastro. Abbiamo capito che ha detto entrambi, ha parlato solo di Giulio, questo dettaglio non me lo ricordo. Sì, ha sicuramente visto entrambi. Poi ovviamente è con stato di shock, quindi la sua descrizione non è che sia chiarissima. Okay, però noi avevamo capito che avevamo ipotizzato si trattasse di Giulio. Ma la tizia ha visto che uccidevo il figlio borgomastro. Però è strano che sia stato Atanas e ci siano testimoni. No, ha urlato prima. No, però la ragazza ha descritto e ha capito. L'unica cosa che ti concede. No, non siamo certi del fatto. No. Non sappiamo che l'altro fosse però così vero che il testimone oculare non hanno più oculare. Ah, è Atanas. Allora sì. Come possiamo averlo capito altrimenti? A meno che lei non l'abbia detto. No, ma l'aveva detto. Perché voi non l'avete mai incontrato prima. Il borgomastro ci ha Ma Salla è con noi. Beh, Candelina ha detto tipo che è stato colui, il descritto era lui. Quindi sappiamo che erano Atanas e il figlio del borgomastro. A cui tu sei l'abbazia con Giulio. Sto andando all'abbazia. Esatto. Aspetta, ci arrivavo. Non sei ancora arrivato? Noi abbiamo... Non abbiamo la certezza, però visto comunque il passato di Giulio comincia anche a essere un po' probabile. Abbiamo intuito che comunque in qualche chi modo ci possa stare come no, che in qualche modo comunque c'entri sì, lui in tutto questo. Vabbè. Poi non sappiamo la dinamica. Visto che quindi io arriviamo lì, vediamo questa scena. Decidiamo per il momento di uscire finché la gente è distratta da questa scena, di uscire un attimo dalla città, perché di fatto se è stato Giulio noi siamo collegati a Giulio, quindi in quel momento però l'ultima volta che Giulio è stato in città era con noi, quindi usciamo. Il borgomastro aveva messo una taglia sulla sua testa. Il borgomastro aveva messo una taglia sulla sua testa, sì, sicuro non su quella di suo figlio. Noi usciamo dalla città. Aspettato, era già pronta. Eccola. Noi usciamo dalla città senza essere troppo visti dagli altri, perché distratti dalla scena. Esatto. L'unico che decide di rientrare in città per andare a parlare con Giulio, che tramite le tracce e la direzione abbiamo capito che sono andato alla Bazzia. Sì, nel senso, esatto, tu sei andato, noi siamo usciti. Cioè, le tracce, ho portato dei brandelli sanguinolenti sopra la Bazzia. Quindi lui lo segue in direzione dell'abbazia mentre noi usciamo dalla città. Ehi, un intestino, povere. Andiamo. Credo qui. Cioè qui dove siamo noi dalla città. No, al bivio. Al bivio per poi andare alla fiume. Al fiume. Al fiume. Che è vicino al bivio. Che è vicino al bivio. Però non è al bivio. Esatto, è vero. È dal fiume e perché noi stavamo cercando invece la tizia, sbaglio. Il fiume è Smeralda. Circa un'oretta dal Salla giugno. Comunque te appena puoi splittare il party lo splitti per questa cosa. In realtà sta andando a recuperare lui. Split the party. E Girano stavamo cercando. In realtà io ti ricordi che ti ho raccontato che ho perso le tracce e non abbiamo idea di dove sia. Esatto. Abbiamo appuntamento, avete almeno avete preso appuntamento al bivio, quindi ci mettevamo vicino al bivio per non essere in mezza piazza, nel senso visti da tutti, però gli ho portato. Sì, siamo tutti insieme. Anche io ho appuntamento al cacciatore, no. E tu eri con me quando loro davano appuntamento al cacciatore. Allora, adesso ci siamo riuniti a loro. E Salla e Giulio sono della nell'abbazia, noi tutti siamo lì da Dio aspettando il cacciatore. E ultima scena, vediamo arriva a avvicinarsi un carro. E sembra che lo riconosciamo e lui ci aveva descritto, lui ci aveva detto che aveva visto questo carro nel posto sicuro che dovrebbe appartenere a Esmeralda. Esatto. Senza dirci dov'è il posto sicuro. Però ti faccio una domanda molto semplice. Siamo un bivio fatto a T, giusto? No, non siamo al bivio. No, Giulio. Siamo stati colpiti. No, vabbè, noi non siamo al bivio, ma lo vediamo il bivio, siamo di fianco. È un'oretta da qua il bivio. Ah no, avevo capito che eravamo lì. Dici bivio un'altra volta? Avevo capito che eravamo lì. Basta, allora basta. Ho bivio, bivio, ho capito che eravamo il bivio. Bivio, bivio, bivio, bivio. Ho capito cosa ho bivio. Sono tre bivi questa strada. Di cosa un'altra volta? Detto che ci sono tre bivi. Sembra una puttana. Sembra una puttana. No, perché nel caso fossimo stati vicino a quel posto. Avremmo capito. Marcellus Wallace, ti sembra per caso una puttana? Avremmo capito da che direzione arrivava il carro e il cacciatore, quindi capivamo il posto sicuro. Era solo quella. Ma voi ci avete già visto dove arrivavamo, solo che non sapete qual è. No, in realtà no. Io è Sala. Sì, bene. Beh, puoi chiedere io. Gliel'ho chiesto, ma mi ha detto che non conviene non dirlo, cioè dirlo a meno persone possibile. Bivio. Bivio. Non so questo. Va bene. Di cosa una bivio un'altra volta? Ok, sì, facciamo una mappa dove siamo, così mi tolgo tutti i dubbi del caso. Sì, perché sennò. Quindi dove c'è sto cazzo di fiume? Forse sarà della birra. Quindi questo è il famoso posto. Dove siamo qui? Quindi no, tra. Non hai capito, non è quello. Dove quello siamo? Prima. Questo è dal fiume, esatto. Quindi al ponte. Esatto. Quello che è questo. No. Ah, questo. No. Ah, questo. Sì. Ah ok, questo è il normale e noi siamo ok. Esatto. Bene. Stacco l'inquadratura è sulla non so, la nana finestra che fuma. Finestra dell'abbazia, dentro c'è un tavolo. Ah, c'è una finestra. Non lo so, aspetta, dove sei tu? No, ma mi hai portato in tipo un sotterraneo. No, non è un sotterraneo. No, se c'è una finestra mi è giunta una finestra. Tu sei ancora lì che devi decidere se farti scoiare. Hai già detto il mattatoio legato a una parete. No, non è il mattatoio, è il piano di sopra del mattatoio. Vediamo se sei contento che hai forse la nutrizionista del Bologna? Sì, oggi fai avere, cioè mi fai avere biglietti. Sì. No, così in base a come ti comporti ti faccio andare male. Se fai la dibattito di... Ragazzi, ho cominciato a mangiare delle... dei lassativi perché è per migliorare la prestazione. Grazie. Saluti. Il Bologna ha fatto merda. Saluti. Sì. Sono fatto domani, cioè, ma no, no, la stanza è questa, dove c'è un tavolo, questa è la finestra, e ti ha portato, piano di sotto è mattatoio, ti ha portato su dalle scale, ti ha portato questa stanza con dei letti tipo ospedale. Guarda. E questa è una stanza adibita a mo' di sala operatoria. Se mi lancio contro la finestra la posso sfondare e buttarmi sotto? Se vai abbastanza forte può essere, ma la... il salto qui sotto è un bel po' altino, poi chiaro dipende dalle tue intenzioni, se è quella di farla finita può essere un'opzione. Vabbè, tanto è un D6 per ogni per ogni il barbone anche in vetri sono? Sì, ha avuto per un periodo quando è stato. Vabbè, non è che da qui finisco giù, è tagliata quella fatta da Montenegro e adesso vabbè, ma mi butterò in giù. Sopra. Da quando ho iniziato a lavorare. Sì, ma sopra. No, da qualche volta ero sul punto dove si salutare. Dove? Non ho caduta morbida, peccato. Vabbè, no, comunque... vabbè, accetto allora. Perché ho sbagliato, ma non per redimermi. Cosa ha fatto? È già accettato? Hai accettato? Ti fai scogliare? No, è vero. Serio? Merda. No, la possiamo randomizzare le parti. Ha avuto un ripensamento. La tonna. Vedo già io. Ah, chi è che il tizio nuovo con un cazzo di testa. Vabbè, ok. Forse. Il tizio è il figlio di musica soft. Ascolta, ma perché hai avuto questo ripensamento? No, in realtà non lo sapevo già l'altra volta, dovevo decidere. Cioè il punto è che in effetti il mio personaggio ha fatto una cosa che di solito non fa. Non ha mai ucciso a caso un bambino. No, a caso. Dai, Giulio, un bambino. Questa qua proprio falso. Allora, consideriamo il tuo personaggio come un personaggio che si trascina avanti. Falso di mezzo, ha detto sono venuto in palestra. Questo è molto diverso. Il pappagallo nella tazza. Esatto. È esattamente. E tu sai, lo sa benissimo. Tieni, ma ti faccio vedere. E lo sa, non è vero. Però diventi un mostro, quindi devi uccidere. Lui è già un mostro. Io sono un mostro che uccide mostri. Idea, perfettamente nella parte. Quindi però tu altre volte diventi un mostro. Sono già, mi considero già un mostro. Quindi è un loop infinito. Ti uccidi, ma non ti uccidi. Quindi ancora meglio essere più mostruoso. Però sì, non perché mi devo redimere. Ma hai iniziato Stranger Things comunque. Bravo, ha fatto una cosa che il mio personaggio, cioè di fatto il mio personaggio mi ha ucciso una persona a caso. No, è inutile che guardi, non l'ha mai fatto. A caso aveva sempre un motivo, che poi magari fosse illogico per noi. L'unica più a caso che ha ucciso è stata la moglie del borgomastro, ma ormai lì, cioè nel senso. No, era per assicurarsi potere. Appunto. A moglie. Allora ha ucciso Sallo. Sì, che ha ucciso Sallo. No. Il borgomastro, Sallo ha ucciso il borgomastro. Sallo ha ucciso il borgomastro. Borgomastro non ci può stare, il titolo di uccisore di Borgomastro. A quel punto elimini tutta la linea. Uccisore di parenti di Borgomastro. Cioè, poi la moglie è una. È un figlio. No, si è un suicidato il figlio. No, è questo figlio. Ah, vabbè, ma magari... era già morto, cioè, non conta. Cioè, come dire... Cioè, le giustificazioni sono assurde, tipo... Già dei cavalli che erano fermi in una carrozza. No, i genitori del bambino avevano venduto il figlio per fare per la droga. Ma erano dei cazzo di vagabondi drogati. Ce li hanno massacrati. Vabbè, tu allora, la prossima volta ci ripensi. Allora, una volta Giulio e Mazzi lo spacciatore. No, aspetta. Ha anche ucciso dei popolani che cercavano di scappare. Ha ucciso dei popolani. C'erano anche quelli. Ma ecco, delle due. Mentre invece combattevamo con le streghe che ammazzavano i bambini, lui era lì a riparare le finestre, a riparare gli scuri. Va bene. Forte coi deboli. No, allora, non ho mai ucciso una persona a caso. Quella più a caso che ho ucciso è stata la moglie del borgomastro. Lo stragista. i cavalli, è per fuori giusto, bravo. Non sono bravo i cavalli. Cioè, fantastico. Va bene, appurato questo, l'abbat ti mette una mano sulla spalla e ti dice devi essere forte, perché per quanto la strada possa essere buia e impervia, alla fine vedrai la luce. E dopo che ti appoggia la mano sulla fronte, perdi i sensi e ti addormenti. Ah. In un sonno molto agitato, pieno grazie di... Grazie, gli fanno anche l'anestesia, va. Cominci ad avere delle visioni terribili. Gente che urla e che implora pietà. Comunque mi piace la seconda che di cui abbiamo parlato. Gente che implora pietà. No, cioè sì, però. Catta che dice: tu Giulio vedi delle visioni terribili, gente che muore, gente che prova la età, e Giulio. Dai. Tato? Abbiamo. Ciao okay. Ginny! Ciao! La voce che fa. Sono Arci! È davvero Arci! No, ma mio cugino, diceva così, mio cugino so, sa capito. Che voce hai. Ah, via esatto. Tuo cugino. Via cugino. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao Ginny. Ciao. Ciao. Ciao. Sai che dice? È suo fratello, no? No. Sì. Il cugino. Ah, è così, sì. Sei anche Arci. Sì. Sei anche Arci. Ciao Ginny. Ciao Ginny. Parla, ma parla. Ciao ragazzi. Ciao Giulio. Sì, ci sono anch'io. Ciao. Ciao. Ciao. Pippo. E ora Stefano. Ci sono anche Sceo e Katta. King. Ah, vabbè, ciao. Ciao. Merde. Grazie. Ma dove sei? No, vabbè, ciao. No, siamo andati in barca. Dove siamo andati? Siamo anche andati. Ciao Carlo. C'è Arci. Boh, la chat con questa cosa, cioè. Era figo. Povero Arci. Bene. Stiamo guardando tutti dalla tavola. Buona visione. Ci muoviamo o no? Cazzo, non toglierti la maglietta. Vabbè, bella. Ah, sì. Ci sta guardando tutta la maglietta. Dai te la maglietta, Arci. Allora, visioni uno. Di Giulio, vedi, hai come la sensazione di sentire... Ho sbagliato un attimo il tasto. Hai come un ricordo di un intenso dolore alla schiena, sì, come se ti stesse bruciando le scapole. Uh-huh. E poi vedi la figura di una piccola sagoma, una bambola di... pezzo di che cos'è? No, era di porcellana. Porcellana che per un momento aveva un volto diverso da quello che più reale, un volto di una persona e che poi si tramuta in quello della bambola. Tira un di 20. Tutto segno giù. Devo fare altro, ma è casuale. 13. 13? No, non vale. Prendi a serio. Poi ti allaccio. Vai, tirano un altro. 6. 3. Mi offro come... per prendere i punti costituzionali. piuttosto che dargli al bambino. Ok, vai, un ultimo. Cambio. Anche so Jason, se ne caso. Uno. Fumble. Ok. Ah, ho capito. Ora ho capito. Ho cambiato dado. Ho fatto uno. Se no avrei fatto qualcosa. 16. Diciamo, meglio con uno, è meno diverso. Va bene. E... stacco. La sala sta salendo. Quindi cosa? Ah, non sai ancora cosa è staccato. Ma quanti dadi devi tirare? Tre. In tre parti. Vediamo. Dipende quanto è stato fortunato. Non puoi dire attacca delle altre robe. Dai, suore che gioca a calcio, muoviti. Stai salendo sulla la montagna per andare all'abbazia. Arrivi al cancello di entrata davanti all'entrata che blocca il passaggio c'è questo gigantesco omone che non avete ancora visto prima ed è una specie di ammasso di carni informe con una faccia storpiata in un ghigno e come una cozzaglia di parti tutti appiccicate l'una con l'altra. Grazie. Ed è lì che sbava. Cosa fai? Sono molto vicini a... Ti guarda perplesso, non capendo che cosa stai dicendo. Forse non lo capirebbe comunque. Sto cercando una persona. C'è tanto stacco. E lui comincia a fare dei gesti come per dire la strada è sbarrata, non passa nessuno. Sì, ho capito. Non parliamo con 15 ore di ritardo come al solito. Esatto. Chiedi l'intervento del jeep. Niente, lascia bene. Posso poi mandare per la cosa che cazzo. Ti guarda perplesso. Una semplice intuizione ti rivela che sarebbe un po' troppo per te, per lui. Cioè, che io sappia c'è un altro modo per entrare in questa pazzia. Scalare le mura, scalare la montagna e calarti da sopra. E che tu sappia, ma è il solito fifone. Che palle. Ma cosa di ipsterino, non te bere. Come dici? Quanto è grosso questo? Beh, più è grosso, più fa rumore quando cade. Salvo, te l'hanno insegnato questo? Come Giulio mentre uccide il bambino. Ah, no. Al tizio dell'abbazia o ai cose, scusate. Ma stai ascoltando? Stai facendo i cazzi tuoi? Io andavo con al gigante. Sì, veramente. Oh. Sei ancora in Sardegna con la testa, eh? Ho ancora un colpo di calore. Ma tu hai già iniziato a lavorare ieri? Oggi. Ah, ma che lusso allora. Sì, veramente. Le settimane non mi credi iniziano martedì? Sì, oggi ho fatto 10. Che cosa finiscono mercoledì sera? Oggi hai fatto 10 ore. 10 senza pausa, non male. Guarda, non è che ero cioè, hai fatto quelle di ieri e oggi. Guardalo lì, è andato a farsi le lampade in banca. Sì, ma cioè, te devi star zitto. Penso io sono ancora andato a dormire due volte quest'anno. Ma ancora. Che cazzo che ti fa dalla mattina alla sera? Cioè, magari. Devo davvero stampare. E non fai neanche la pizza in pane, che vergogna. Passami il manuale. Se tu che non vuoi partecipare alla gara per guardare. Devi fare un tiro però. Mi piacerebbe sapere. La CD, digliela. No, non la CD. Il PS. Che. La CD è poco. Sì. Pensavo ad averlo stampato. Ci faccio 12. Passo tutta la sessione con questo bicchiere. Sveglia, guarda come ai giochi intelligenti partecipa subito con questo bicchiere e la lingua l'ha parato. Sto cercando di alzare questo cazzo di cosa è tipo da quando è cominciata la diretta che sta così non suona bene però no metallo. Sto cercando di alzarlo da quando siamo in se faccio setto ok questo bicchierino devi cercare. Oh, comunque no. Stalla Andrea può parlare di più veramente cioè, durante che comunque ho capito che c'è colpa mia. Ho ascoltato tutti gli episodi quindi tutto. Infatti io per evitare mi piace il loro podcast. L'ultimo episodio me ne sono andato chissà se sei andato che ero al computer ma in realtà mi sono spento il microfono, mi sono alzato e sono andato a fare un giro mentre non parlavo. Perché? Vabbè, per la teoria ci gioco. No, è molto perché l'ho perso di chiedere il suono. Quello perché sei uno stronzo. Ma due ore di podcast, lei io. Io li ascolto. Io avrei passato metà della mia vita a ascoltare i podcast. Una volta che faccio una sessione devo ascoltarlo. Quando io perdo una sessione, succede molto raramente, però l'ascolto. Dimmi la CD. La CD è 13. Oh! 13. Cazzo, sono fresco. Adesso sono canta di storetti con quel colore di faccia, sono proprio di legge. Let's get safe. Cioè, scemo, mentre vai al lavoro. Cazzo, un imbecille. Cioè, neanche avessimo bevuto, tra l'altro. Vabbè, sì. E lui l'ha fatto senza bere. La passa. Capito che c'è qua dentro, scemo? È droga. Oh, lo fa catta, nessuno dice niente, lo faccio io. Catta l'ho fatto per sbaglio, tu sei ancora. Ma chi ha sbagliato? Ho beccato il bordo, non le patatine. Io volevo beccare il bordo, ma beccare la patatina. Il mio amore. Ma che cazzo. Spaccare tutte. No, vabbè, stai solo al centro. Solo al centro. Non ride alle tue battute, Salla. Sembra un po' irritato. Ma che battute erano? È quelle di Las. Las ha sbagliato da qui. No, hai impressione che la magia abbia meno effetto rispetto alle persone, alle cose normali su di lui. Ok, ripasserò più tardi e me ne vado. E mentre me ne vado mi nascondo, c'è un punto che nascondo lì vicino. Ci sono degli alberelli e dei cespugli. Ok, allora mi nascondo in uno di quegli alberelli o cespugli. Ok. In un alberuglio. Un cespello. Settimana prossima vieni a cena. Bene, allora, bisognerebbe vedere o Spider-Man 2, sì. Oppure, anzi, anche io ci vado però. Bisogna aver visto il primo. Ma sì, infatti devo vedere. C'è anche Avengers Endgame. Che no, andate a rivederlo davvero solo per fargli vincere al botteghino. No, lo fanno riuscire perché hanno 10, messo 10 minuti in più. Di titoli. E costa anche 10 euro. Paga 6 euro se va bene per vedere 10 minuti in più di un film che hai già visto. Vabbè, no, l'unica cosa che magari hai visto è meno di un euro a minuto. Esatto. Hanno fatto tipo un omaggio a Stan Lee. La mamma di carta costa molto di più. No, scusa. Lui ha provato. Complimenti. No, scherzo. No, Story 4. Complimenti. Hai visto Story 4. Hai visto Story 4. Io no, perché non ho visto tutti gli altri prima. Solo uno quando mi facciamo molto anni. Più podcast di cazzate noi che salto. Io di nascosto. Ah, e sabato esce un episodio del podcast brutto, però ascoltate. Dai, ti nascondi dietro un cespuglio. Esatto, ho fatto 18 e poi da nascosto faccio illusione e faccio un suono provenire da lì vicino. Tipo da vicino al tizio, ma dalla parte opposta. Tipo da vicino a me. Che tipo di suono? A scoreggio. Tipo lanciare un sasso, no? Facevi prima. Tipo lancio un sasso, lancio un sasso, lo vedo. Ma magari la prossima magari volta fai tu il personaggio di Star. Sì, ci ho provato, è morto. Faccio tipo un suono, tipo un fruscio, come uno. Ma magari impara come si gioca. Come se uno si stesse nascondendo male dall'altra parte. Ok. Io tipo, scusa, ma potevi affrontare tutta la battuta da solo? Come avrei fatto io? Non si gira. Fanculo, vado lì. È stato attaccato. Ok, stacco. Ti hai detto un carretto arrivare. Dal lontananza. Sì, ci siamo. Questo lo metterò. Tiro iniziativa. Non è vero. Intanto Salla controlla. Hai detto stacco? Sì, lo so, però mi serviva sapere la distanza con la quale riesce a comunicare col pipistrello. Non abbastanza. Sto facendo così, cattivo. Mi hai detto quello che volevo sapere. Ok. 60 piedi, no, una roba piccolissima. Però. No, 60 piedi mi sembra un po' poco. Sarà. Ma era un centinaio, mi sa. Anche ricordavo il segui le sue storie almeno. Cosa? Su Instagram. Mister simpatia. In questa compagnia. Ma perché non siete mai messo un'altra foto su Dwight Bonazzi? Voi non le metto io. Vabbè, però fa le mettere. Hai fatto quel calendario di padre? No, appena. Fa un cazzo. No. Va bene, vedete arrivare il carretto guidato da Esmeralda e di fianco a Riccardo. Grazie. Mi è piaciuta molto prima questa cosa. È il carretto che avevate visto chi c'era stato di fianco alla torre. Sì. Sul quale c'era il cartello dove entrare. Dove entrare, esatto. Ma siamo tutti insieme noi, no? Io mentre lo vedo arrivare, sì, parte il carretto, sto creando i bordi. Mentre lo vedo arrivare faccio tipo gomitino a Vettel, dico è il carro che mi dicevi. Mi butto a terra e chiedo arbitro! Ah, perché lui mi ha detto che ha visto il carro che dovrebbe appartenere. Tra l'altro è un naso, quindi minimo ti tira una gomitata nei coglioni. Colpo basso. Cos'è che mi fai il corpo per dirmi? No, ti faccio tipo, è quello il carro. Ne abbiamo parlato tipo un'ora fa. E poi già lo dico, ci sono cose. Un'ora fa mi hai detto che c'è il carro di Esmeralda vicino al posto. È quello. Rivaliamo in guardia. Gli do una gomitata a Vez. Faccio quello il carro di assolutamente no. Ma facci credere, dici. E il carro lo accosta a una trentina di piedi da voi e scende il Rectavio che si avvicina mentre Esmeralda rimane a tenere. Ma la vediamo, cioè. Ah, ma quindi c'è proprio Esmeralda sopra. Sì. Ah beh sì, perché giustamente con il carro può muoversi da sopra. Allora gli chiedo, ma è quello il carro di Esmeralda? È quello il carro di Esmeralda? No, però è strano. Aveva una bella rapita. Bene, ho fatto altrettanto. Ho fatto quello che mi ha chiesto il vostro amico, ma non lo vedo qui. Ditemi, dove è finito? Patatine. Okay. Dentro? Che ironia. No, è sul fondo. Sì, dentro la bottiglia. Ah, no. No. Se ne vuole. Che schifo. Pensi che io non sappia farlo entrare dentro la bottiglia? No! Buono. Allora, ce l'ho aggiunto un altro. Ataras al momento si trova all'interno di Kretsk. Pare o forse Kretsk. Lui si riferiva all'altro amico Reis, che è lui che gli ha Reis chiesto. Reis si trova anche lui all'interno di Kretsk, perché voleva avvisare Ataras che siamo dovuti uscire da Kretsk per colpa di Ataras. Comunque io dopo me ne vado su. Va bene. Siamo tornati in città, a quanto pare il figlio del borgomastro è stato ucciso di nuovo. E stando a racconti di alcuni testimoni, pare che sia stato Ataras, anche se non abbiamo capito un po'. Anche se ci sembra piuttosto strano, perché come indole è tutt'altro che sì. Una brutta situazione mi state raccontando. Cosa ancora più curiosa, si era fatta un po' pesante, quindi abbiamo deciso di uscire onde evitare guai peggiori. Ah, per voi sicuramente. Non oso pensare che cosa farà il borgomastro del vostro amico. Ah, ci ha messo una taglia sulla testa. O cosa farà il vostro amico? Ha messo una taglia. Il vostro amico sicuramente è molto avventato, ma comunque assolutamente in grado di badare se stesso. Comunque una ragione in più per non tornare in questo posto nel prossimo futuro. Aspetterei comunque qua un po' a vedere se riesco a raggiungerci sia lui che Reis. Ma sì, devo consegnare a Reis il suo animale e il messaggio che mi ha chiesto. Ma prima dici tu, hai delle novità? Nulla che vuoi non io ho ancora Frank. Ah no, è vero, loro comunque non li ho mai visti, quindi ti presento. Sì, li ha visti. Cioè, lui sì. Li aveva visti in città. A Vallacchi. Ufficialmente in effetti era sotto mentite spoglie. Quindi vi spiega che lui era camuffato da bardo mentre era alloggiava alla. Era locanda. Quello con la tigre ammazzava i stani. Alla locanda dell'acqua blu e vi spiega che stava investigando su un'organizzazione segreta. Ah, quindi così urlando non lo faccio veramente. Ah, quindi portaci pure la torre, ho capito. Perché? Perché il bardo ci deve appuntamento alla torre. Sta cacata ci vado in bagno, guarda. Quindi a questo punto il mio personaggio è qua lì. Aveva dato tutto. Vabbè. Comunque tu ce l'avevi detto. No, no, la torre sapevamo tutto. Vabbè. E vi dice che la, quando in, finché i periodi erano tranquilli. Veramente? Allora. Finché il periodo era tranquillo, stavo in città ad investigare su possibili alleati. E poi è successo qualcosa. Nella battaglia al maligno. E stavo seguendo questa pista che mi sembrava molto promettente, che passava per il proprietario della locanda, che chi ci ha alloggiato ha conosciuto. Quindi Laz e credo Pat erano due persone migliori per questa cosa. E, ma giustamente, essendo un'organizzazione segreta, è molto riservata proprio perché deve badare a se stessa e non si può fidare di nessuno. Prima riguarda l'organizzazione segreta. E, quella, la mia pista però adesso mi sta conducendo in queste terre, perché appunto la stessa famiglia che gestisce la locanda di Vallacchi è quella che possiede la vigna, l'unica in tutta Barovia, e dato che a quanto pare è successo qualcosa per cui non arrivano più rifornimenti da un po' di tempo. Anche l'Ittario vuole il vino. No, sì, vuole. Sì, il vino, no, questo lo sapevate già. Sì, vino, vino. Quindi penso che sia un'ottima pista da seguire. Sì, però ti faccio un attimo cambio di discorso. Come sta Irina? L'ho vista meglio. E l'hai parlato? Sì. Che? E... temo che viva questa situazione un po' come una prigionia, non è molto felice di essere costretta a stare bloccata in un posto. Tutti certo, noi capisce, capisce che è per la sua sicurezza, sì, sì, lo capisce, però lo e vive, quindi ha accettato lo vive la un po' proposta male. Di gli altri? E, mi ha detto appunto di... no, io quando gli ho portato l'amichetto pelosetto del vostro amico, ha parlato con lui e me l'ha ridato dicendomi appunto di riconsegnarlo. Che, portami via questa bestia. No, che aveva un messaggio per proprio per Race. Basta. No, beh, perché è Race che lo può ricevere essendo lui in contatto. Se parli pistolese, chiaro, esatto. Maiale, forse lo puoi capire. Un po' al Obi-Wan, se è la mia ultima speranza. Sì, esatto. Aiutami Obi-Wan. Io ti bene, spero non tardi troppo perché il tempo stringe, dobbiamo partire. Tu, tempo stringe. Bello come il sole, mentre c'è la città che viene messa a soqquadro per scovare Atanas, esci dalle mura e ti incammini verso... Ma è riuscito a avvisartelo? No, perché c'era il bestione, questa cosa... No, c'era il tizio, mi sono tutti coglioni, esatto, anche perché non mi sono ancora riposato, erano altri che attesi. E raggiungi quindi la gang del bosco. E Rictavio ti riporta il tuo pipistrellino. Com'è? E appunto quando rientri nel range di, hai due tacche per fare una chiamata. Sul pipistrellefono. E vedi appunto che quando è arrivato, che era tenuto in una scatolina di legno per non fargli capire la strada, la scatolina è stata aperta da Irina, che ha preso il tuo pipistrellino tra le mani. Non morto, sì. E ha fatto cucci cucci cucci, è caduta la testa, quindi sì, c'è un doppio senso, c'era, abbiamo 30 anni e nessuno ha riso, va bene? Passano su 30 anni, non abbiamo 30 anni, appunto, 29. Voi più di me ne avete 30, tra l'altro, se vogliamo dire. Può odiarci. Io no. Io sono il più giovane che me. Sì. 25 anni. Cosa? Tu c'hai il fuso orario di... Esatto. Vabbè, anche a me mi danno 24, però. A me danno... Te danno 24 anni cosa... di galera per me. A me ne danno 35. Quindi... Come Robin. Capito? Esatto. Appunto, vedi attraverso gli occhi del pipistrello che si chiama... Ha un nome? Sì, sì. Pipistrello. Sì, si chiama Aspetta. Sì, è un nome stupido. Chiamano Mick Micro. Si chiama Ristat. Pipistrello di Ray si chiama che cazzo. No, è tutto attaccato. Ah, scusa. La razza di pipistrello. Che razza di pipistrello? Poi è scritto Bat, inteso Butt. Ok, allora questo vuol dire il culo di Ray. Sì. Ti dice ti dice Reis, ti prego, ascolta le mie parole. Nulla di buono potrà mai venire da un accordo con il demonio. Egli ha passato secoli ad ingannare la gente come voi, come se fossero burattini per fare... Sta parlando di là, di Atlas. No, sta parlando. Sì, non sono il demonio. Non ancora. No. Non si sa, è sottointeso, però. Qualsiasi cosa lui fa, lo fa per col racconto personale e per ingannare il suo prossimo. Come Atanas. Io non inganno il prossimo. Lo ha fatto innumerevoli volte e questa volta non sarà diverso. Io sono io sono molto onesto. Non... Stai attento, mi raccomando. Mi sono addirittura autoaccusato dell'omicidio di due cavalli. Che brava persona. Del cavallicidio. Dell'omicidio. Si dice costituirsi comunque, non autoaccusarsi. No, mi sono autoaccusato. Okay. Non so di cosa stai parlando. Muore questa carne di cavallo. Del cavallicidio. Ma perché non è carne di bambino? Non pare che muore questa Race, sappi che è un deviato e lui gode nel traviare le... No, pensavo che Race fosse un deviato. Vabbè, adesso sappi che deviato, stiamo comunque parlando del nostro amico. Pensavo strappa. Comunque in una campagna farò il comunista mangia bambini. Beh, non lo eri già in... il pappagallo nella tazza, cioè è proprio quello lui. Bellissimo. Cambio d'abito, via. Si torna in cielo. Questo personaggio è molto diverso dal guerriero elfo che ha fatto all'inizio. No, piano piano sta prendendo una piga. Assolutamente no. Solo perché andava in giro a spaccare. Concentrati, Race, mi raccomando, non ti fidare del conte. Se fai sempre esattamente il contrario di quello che ti dice. È il gioco del metto giù le pistelle entrando in una galleria. Io sono relativamente al sicuro, quindi date priorità a trovare un modo per sconfiggere questa voce qua è di Irina. Ma in realtà non si sa niente di questa roba. Sì no, ok. Ma quello avevo capito, volevo capire. C'è Reis che sta parlando al suo bat. Ciao, ciao, pipistrello qua in mano. C'è lui che vuol volare, tipo ti. Reis! Sei riuscito? Ha detto ok, ragazzi! Sei riuscito a contattare Atadas? No, perché dentro l'abbazia e c'è un tizio davanti che mi faccio entrare. Pensavo di vedere Sala. V, A, F, F, Q. Tu, il tuo castello, la tua vita di forse merda. Potresti contattarlo col pipistrello. Ciao, amico. Mi fai schifo. Cioè, se avete un messaggio, glielo richiamo. Ma fammi che lo richiamo. Sì, purtroppo. Sì. Scriviamogli che siamo dovuti. Siamo dovuti uscire. Se è in pericolo, magari di farcelo sapere, se riesce di raggiungerci verso la direzione della vigna. Va bene, allora scrivo un messaggino, un SMS. Quanti caratteri? Dipende quanto scrivi in picco. Piccolissimo. Ok. Allora leggo alla zampa e dico che mi stanno di andare alla pazzia e cercare le avanze. Va bene, il pipistrello si invola. Cazzo, pipistrello ha perso l'incantesimo più utile della storia. Miglior personaggio del party. Avrei mandato il mio alce, ma forse non era così come. Miglior guerriero del party. Va bene, possiamo andare. Bene. Rick Savio vi dice. Ok, ora che ci siamo grazie chiariti. Grazie per il cristallo. Andiamo a sud. Siamo cacciatori di anni. Siamo cacciati di un fino la strada da lì sì. Cazzo. Inoltre per me è uno in meno di voi così come io. Va a cagare. La strada si inoltra nella foresta esatto seguendo un sentiero. La stessa cosa l'abbiamo visto insieme. Sì, ma io sono più giovane di voi. Quindi guarda che sei più giovane di 7 mesi. 8 anni per voi 9. Guarda, più grande anche a me. Il tempo secondo Arci. Sì. Cioè, a meno che tu non sottintenda che visto che tu hai più massa, però solo di Salla, poi ragazzi. Allora hai rallentato il tempo. Oh, Salla sta dicendo che sei una sega. Hai visto sto qui, guardate cosa dici? Solo di Salla. Solo di quel secco. Salla. No. Di potenza. Hai detto così? Non ho detto questo. Hai detto così? Sì, l'ho preso. Anzi, ha riassunto questo che ne ha detto di te. Sì. Ci vuole un po'. Il sentiero si inoltra per un'ora nella foresta. A un certo punto però la vegetazione si fa più fitta e... scrivere gli alberi. Certo. Sono 12 larici. No! Contornati da ghirlande. Di ci sono varie querce. La prima vabbè un'ora di foresta sì poi il sentiero letto il signore Ianelli il sentiero si perde nella vegetazione. Cazzo, e suona. Il carro non riesce più ad avanzare per cui viene lasciato in una tra le delle frasche ben riparato. No, dedugo che la tigre non l'abbia recuperata Ritter. La tigre non è lì con voi perché è trasformato in tigre perché sarebbe stato troppo. Casimir è con noi però. Casimir è con voi. Sì. Nel carro possiamo riposare. Non siamo in full tipo. Nel carro possiamo riposare. No, non si riposa dallo scontro coi cose. Io sono full però. Con il mio canto. È vero però ovviamente. No, da quello con le erbacce. Io punti vita sono stato subito prima. Vabbè, io e lui quindi siamo full. Sì, perché non avete fatto niente. No, l'abbiamo fatto. No, ho fatto l'incantesimo. Cioè, lui non ha. Lui ha usato le forme selvatiche, ha usato anche qualche incantesimo. Io sono degli animali. Sì. Io ho cavalcato altro. E come sono messo? Tu hai 42 punti ferita. Ok. Io solo ne ho uno temporaneo almeno, quindi non mi prenderò mai perché non curo la gente. Se vieni curato possono aumentare. Grazie. No, se viene curato passa la sifilide a chi lo cura. Beh, chi lo cura no. Ah, lui anche tu hai ancora i malus. È l'unico che ce l'ha, che è rimasto è... Io non ne ho più di malus. No, è Bayern. Perché sì. Lui ha il malus ancora? Perché mi ha curato l'as. Perché lui non ha fatto né il patto con Strad né è stato... Con Rectavio. È vero. Perché no, con questi 29 anni ne hanno io. Sì, è l'unico marcio. Vabbè, sì. Garrosh è l'unico marcio. E te l'ho detto che dimostro più anni di quelli che ho. Quindi volete riposarvi, non ho capito. Forse anche Pappen. No, okay. Cioè, in realtà ci starebbe, però... Vabbè, dipende. Scusami. Cioè, dipende. Non viene poi no. No, se nel carro ci stiamo tutti, tecnicamente riposo breve hanno al massimo due persone. Ah, è proprio piccolino, piccolino. Vabbè, a turno. Vabbè, a me ho riposo tre per non mi chiamasse. Ah, allora niente. Beh, un riposino breve. Un riposo breve un'ora. Vabbè. Dipende da che momento della giornata è. Allora sì, dai, fammelo fare un riposo più breve. Puoi chiedere gentilmente se ti fanno adagiare nel carretto. Dovrei dormire nel carretto. Sì, piccolo. In realtà non so se... Il riposo breve è che non devi dormire, puoi anche segarti. Sì. No, non so. Catta, non devi so cronologicamente. È arrivata adesso? Non so se non siamo usciti dalla città. Non è passata neanche almeno un'ora quando poi arriva il carro. Che magari lì c'è il time. Abbiamo fatto per te. Effettivamente avete avuto anche solo aspettando... Anche solo aspettando Salla, quindi ci sarebbe stato il tempo per riposarvi, per fare un riposo breve. E quindi possiamo dire tranquillamente che ho avuto. E quindi. No, perché dicevo prima, mentre aspettavamo prima due Ricario, riposi brevi. Sì. Prima Rictario e poi Salla. Non so se ne puoi fare due di fila, però cosa ti cambia? No, ma non ha puoi senso dire che inizio riposo ah, lungo, no, perché non scegliere quanti dadi. Esatto. Nello specifico ne tiro uno da 5 che diventa 7. E poi dipende come è 49, 49 che se tipo 9 tiro uno da 2 che diventa 4 full. Non so che momento sia della giornata. Vedi che da 29 anni si devono più polemici. Da dovrebbe essere più alla tua età. Raga cazzo. Pomeriggio inoltrato. Mi arriva 8 30 anni. Okay. Pomeriggio 35. È pomeriggio inoltrato, quindi non è. Sì, è vero, dico io. Incredibile. Dai, non è vero, perché se fossimo stati a giugno avrei avuto anche questo stronzo come 20 anni. Invece non si non ci può fare andare. Come l'iniziativa, ritardo il mio compleanno. Tu quando è che sarà? Primo maggio. Grazie invece che sono 10 maggio. 11. In questa lui è giovane. Tra di noi io sono il più vecchio, seguito da Salla. No, ok, non mi ricordavo lui. Adesso che a maggio so che ha 17 giorni. Adesso è molto giovane rispetto a me. L'unico è Fede che mi può cagare il cazzo, devo ammazzare. Cazzo, adesso telefoniamo. Telefoniamo a Fede. Fede, rompi il cazzo da G. Un po' di Bresca. Bresca Durana. Cos'è? Wow. Virto. Scusa. Ah, dai. Martino chi sta? Tipico di chi ha 30 anni quello. Ma Vez ne ha 29. Non dire che abbiamo 30 anni. Sta mettendo avanti Vez perché Vez sa che tra... Sposo, di 38. Tra meno di una... Fa vedere Vez quella roba. A parte che Vez ha detto che non arriva a 40, quindi che se li gode. Sì, so. Vez lo dice sempre. Vero, ormai vero. Siamo agli sgoccioli, cioè. Non stai neanche più a contare. 35 non è che poi stia benissimo. Esatto. Mi ero scordato che tu Vez avessi già superato... La cima del... Esatto. Fossi già nella... È già proprio in fase. Della parabola. Ce lo puoi no, vedere cosa sì, cioè, nessuno di noi è in teoria a metà della sua vita. Vez invece già praticamente. Ah, mi sa che devi solo girare. Dopo questa tirata di giù, nessuno di noi è a metà della sua vita. Domani tutti morti. Teoricamente. Giulio. Ho aggiunto un teoricamente. Sì, morire come ultimo pensiero è Giulio, bruttissimo. Senza offesa. Ma tu muori l'ultimo pensiero beh, Giulio. Se mi dovessi morire tipo stanotte. Vabbè, se muoio stanotte. Magari dormi. Però magari sogno Giulio. Cioè, l'hai detto un po' come tipo l'aggettivo. Il tuo pensiero è molto Giulio. È molto Giulio. potrebbe essere un aggettivo. Io ho fatto un sogno con Giulio. Domani quando una bicicletta mi starà per investire a morte, penserò a Giulio. Grazie. Penserai Giulio. A Giulio fischieranno orecchie e ancora verde. Perché saprà. Arriverà una telefonata che gli dirà e lui dirà lo sapevo. Risponderà e dirà sì lo so. Bresca, come della Bresca. Ah che ignorante, ha scritto il cuore con la Q. Scherzando, Mirto di Sardegna. Il mirto, il mito voleva dire, nell'antichità, era la pianta sacra. Grazie. Dedicata a Venere, dea dell'amore. Dai frutti del mirto si ottiene questo particolarissimo liquore. Al lavoro! Hai 30 anni. Ingredienti infuso idroalcolico di cosa serve per la bottiglia, secondo me, per schiacciare le patatine. Non è vero. Oddio, come l'attacco quella. No, dai che vai. Classica bottiglia sarda. Dove è prodotto? Minchia tosto. Buono. Dopo la 30. Non vai neanche a 70. Dai, 30 gradi come la nostra età. Non le assaggi neanche. No, non piacciono queste cose. In realtà è leggerissimo. Come sapore, dico, è molto leggero, non è sapore troppo forte. Beh, è più. È vero. Non sentire l'odore. Però non sa troppo di erbe, non è carico. Beh, insomma. Beh, ma è abbastanza fresco. È bello dolce anche. È dolce. Buono, buono. Sì, forse è quello che volevo dire. Sì, forse è quello che volevo dire. Risulta dolce rispetto ad altri amari, anche se è amaro e dolce. Sì. Allora, per essere un amaro è dolce. Beh, è della confusione in testa, ci va bene. Però non la fanno aver detto queste caccate, secondo me. In realtà sì. No, lui poverino. In realtà sì. Amici tuoi. Catta. Faccio sforzo. Ormai ho smesso di dire, posso bene. Dire una cosa stupida, posso fare una domanda. Così saliamo, ormai ho fatto da me, ce la posso. Ho passato questa timidezza. Ho perso dei pezzi. Dovrà in qualche modo compensare. Però, raga, ogni tanto mi mancano le battute di Lazio. Li scriviamo con i no, a parte che già comunque ogni tanto manda le cause sul gruppo. Poche, che... però, può. Beh, in realtà, per fortuna. In realtà, a un certo punto ne ho aperta una che pensavo fosse di Lazio, in realtà era del Master. Contemplare, io ero convinto che l'avessi mandata là. Saudaci, infatti, ho detto guarda la sua. Vabbè, vabbè, anche quella di oggi, di ieri, di Arce, sì, della profezia. La profezia, anche quella effettivamente siamo lì. Però bisogna dire a Lazio ogni tanto di collegarsi e mandare qualche battuta. Ok, è un po' in effetti che Lazio non. Perché adesso è Catta che. Ah no, ha fatto l'estintore Las. Però un po' meno. Cos'era pure? È l'estintore. Ah sì, l'estintore. Sì, l'estintore, giusto. Era sottile quello. Sottilissima! non dopo mezzo miglio la strada diventa un praticamente una distesa di fango. Questa è la stand, ma dalla web okay. Anche Miami. E attraversa i boschi. A un certo punto questo percorso si divide e una parte si dirige verso ovest. E, pochi metri più in là c'è un cartello di legno fatto a freccia. Con la scritta vigna. No! Che indica la direzione. Li vediamo automaticamente. Automaticamente, questi sono tre livelli che avevamo lasciati dietro. Ho cominciato a sentire un'aura potente. Ho paura. Continuate. Direi che prendiamo la direzione della vigna. E di fianco a questo sentiero ci sono degli steccati, non neanche dipinti, cioè proprio di legno, che sono. Condanno a morte! Che sono ormai ricoperti da rampicanti. Che stupido. Ah, il sentiero. Aria. Tu sei Rob. È ora di colazione. Sono stato chiaro. Tu sei Rob. A nord del sentiero c'è una grande macchia di alberi e dietro a uno di questi al limitare della foresta c'è un uomo. Riempilo. Che cazzo? Questo uomo indossa un mantello nero e con un cappuccio. Ed è lì che appoggiandosi al suo bastone scruta al di là degli alberi. Avrei voluto chiedere una cosa, ma troppo tardi. La valle. Ma è. Vabbè, sembrava un cavaliere nero scuro. Esatto, è tipo. Sì, nel senso. No, questo mantello nero. No, il cappuccio che scruta l'orizzonte. Sul suo destriero, è un vecchio successo. Allunga, che sta in piedi. Allunga la mano verso di voi e dice: spiccioli! Fuma uno spiccio, famiglia! Avete una sigaretta? No. Vabbè, avrei voluto in realtà cioè gli allungherei la moneta. Avrei voluto chiedere qualcosa a, al cacciatore prima di arrivare alla vigna e di incontrare qualcuno, ma forse cosa gli voglio dire? Buongiorno mendicante. Noi andiamo lì. Lui aveva una pista. Ci ha solo detto questo. Cos'altro però, vuoi sapere? No, nel senso, cioè, no. Questa gilda mafia della vigna. È amichevole, è ostile, nel senso. E ha detto Divine Sense! Cioè, questa è un'informazione che non mi ricordo io, magari so già. Sì, ti ha detto che è un'organizzazione segreta che può essere alleata per sconfiggere il no, sì, sì, cioè no, questo l'ho capito, però sa che lui vuole. Sì, basta, vado stupido. Noi, cioè, noi andiamo lì, ma questi magari a prescindere hanno delle guardie agli ingressi che ci attaccano, appunto. O lui conosce già la situazione? No, lui non conosce, è la prima volta che viene qua, come voi. Ok, quindi andiamo alla cieca. Alla cieca, sì, devo andare alla cieca. Questo volevo sapere. Quindi come facciamo a vedere? Questo non si sa. Cioè adesso siamo nell'est Europa, a meno che siamo cieca. Presence of strong evil registers on your sense like a noxious odor. Sento la vergogna del male. Se no, cos'altro senti? No, divine sense. Presence of strong until the end of your next turn you know the location of any celestial fiend or undead. Esatto. Vabbè, è abbastanza inutile, però sei non morto. Più che altro sei sicuro che non ci sono celestiali, demoni o non morti. E? Però ora posso dire una cosa, cioè fa un po' ridere che incrociamo un vecchio. Oh, vedi, un vecchio di merda. Oh, metti che sia un tipo l'uomo no, più forte del mondo. No, vabbè, stai a vedere. Cioè, hai visto come. No. Stai a vedere se è un morto. No, però fa ridere che due secondi più. Ma perché ti succede? Magari non merda, lui, metti che sono. Aspetta, che ci sono dei vampiri visibili in agguato. The same radius. Liquido. You also detect the presence of any place or object that has been consecrated. Quindi se ci sono oggetti consacrati o dissacrati. Non ci sono oggetti consacrati o dissacrati. Merda. Giuro che comincia a brillare. Merda, le ossa. Ah, è vero. Lei è ancora con te. Sì, perché Strada gliela ridate a parte una. A parte una. Cazzo. Vabbè, dai. Tanto un applauso all'onestà, perché poteva non dirtelo. Esatto, dirtelo. Bravo. Mettiti un'inspiration. Beh, ma quella Giulia ha fatto la zica, tesimo. Sì. Quindi? Sì, è vero, non è la stessa cosa. Vero. Visto, ora è un vecchio negro. E infatti non so come abbia ottenuto il permesso di sbarcare in Italia, cioè, ultimamente. Come hai fatto a tornare dalla Sardegna? Eh? A nuovo, penso. Hanno fatto scendere no presente, hanno fatto scendere i vecchi e i bambini grazie, non capisci. È molto facile. Comunque ha detto il master di metterti l'inspiration per aver ammesso questa cosa. Ma basta, cioè allora comunque è una vergogna. Puoi scegliere di darla qualcuno. Loro ottengono dell'inspiration tipo e vabbè ce l'hai l'inspiration. Non ho fatto 20 questa volta, bravo, onesto, 20. Inspiration. Cioè, ce l'ho segnato l'inspiration se serve, ma vabbè, in realtà non ce l'ho. Aspetta, vediamo quanto la capisco. Era quella che mi ha toccata, mi l'ho usata. Puoi darla a darci se vuoi. L'ho usata per te, tra l'altro. No, l'inspiration. Aspetta. Tu l'hai segnata, no? No, vai, togli la cartellina, la cartellina, metti, cancellare. È un grosso lavoro. Sì. Levare pesi. Hai bagagli. Cioè, so che su di lui c'è una roba. Una cosa consacrata. Va bene. Su di lui e su Sanna. Su Sanna. Sono le ossa? Sì. Ma. Vabbè, vabbè, sono gioca da roleplay. Stavo guardando se. Ha detto che non posso saperlo perché è da. Da metà game, lo so solo da metà game. Sì, adesso è un gioco da non play. Ma cosa è vero? Che cazzata. Cioè, siete la vergogna. Ma tu sai solo che c'è una cosa. So che lui ha. No, ma non sai nel minimo la formula. Proprio... No, solo sai che c'è. Stavo cercando di capire, però c'è anche non lo so. Rex Flavio dice avviciniamoci. Potrei essere così. Tranquillamente, senza fare movimenti brusco. Che sei un animale. Non spaventiamolo. Vabbè, aspetta, non andiamo a mo' di folla. Andate magari tu e Riccardo a parlarci. Come ma non è un animale che scappa se ne no. Vabbè, ho capito, però sembra. Anzi, è un vecchio. Vabbè, poi ci fanno due passi. Oddio. Ci siete tra facciamo con la manina. Ci facciamo con la manina. Questo è un chiaro segno che sta con strada. Atanas, fagli vedere come salva i diamanti. Andante. Solo con voi, solo con lo spirito. Buongiorno, vi salve, viandante. Io non vado da nessuna parte. Let's, non vedi che stai girando su te in piedi? Ripetisco, è ubriachissimo, ho capito. Fagli vedere l'immagine, se mi avessero mai visto. Sì, quale nuovo? Posso fare un perception per sentire l'alito? Mentre vi avvicinate, diventa un drago. Escono altre persone. Ah, come lui? Come lui, no, di diversa età. Simile alla sua o più giovane? Più giovane, lui è il più vecchio. E 30 anni, lui è un, un vecchio dall'aspetto sospettoso. E di fianco a lui ci sono due giovani. 28. E dalla fisionomia potete conoscere come suoi figli. E oh, Giulia. Le loro ah, mogli e anche qualche bambino. Peccato non ci sia l'Anatas. L'Anatas all'arancia. Sono quindi forse queste le vostre terre? Si dice che ci sia queste siano terre di buon vino. Ah, lo può dire il migliore della vallata, anche perché è l'unico. Molto piacere, Davian Martinkov. Guardo la mano, no. Gli do la mano e poi ciao. Piacere, Vardi Strandi. Dove? Bucoro. Dopo Birsk. E anche Rectavio fa le presentazioni. Quanti sono in totale sti cenni tra tutti quanti gli amici che sono fuori? Sono in 9 in totale. Quanti bambini? Troppi. Ma siamo tipo in un campo, in una vigna, proprio in una vigna. Allora, siamo no, eravamo un bivio dove siete al limitare della foresta. Uno di questi bivicino. Bivio un'altra volta. Era un bivio però. C'era la strada che cominciava verso la vigna. Solo dei bivi. Non è che perché c'è un fossato a destra o a sinistra del coso vuol dire che ti puoi lanciare più della strada. È un bivio. Puoi scegliere di buttarti, è dritto, quindi. Lui dice: io sono Davian, il padrone della vigna del mago. Del mare? Del mago. Del mago. Il mago della vigna e la vigna del mago. Questo può questi essere. Sono Adrian, Elvir, i miei figli. Che caos. E Stefania, mia figlia. Com'è e carina? Doug, suo marito. Ah. Stefania che è cazzo, una, Doug. No, Doug. Cos'è? Tomescu. Ah, ok. Già meglio. Doug. Doug. Cos'è? Americano che si è perso qua. Scritto D-A-G. Non so. D-A-G. D-A-G. Vuoi ancora cancattare? È a posto, grazie. E questi sono... Smettiti bene. I loro quattro figli. Claudio e cioè, non che Mirta è l'anagramma di morti. Martin, Viggo e la piccola Iola. Bevo da un mese e ho due bicchieri di Mirta, non è che. Diciamo così, due bicchieri di Mirta. È morto disidratato, non beve da un mese. Alcol, non bevo anche. Sono molto felice di vedere dei. Insomma. Giocatori di ruolo. Giocatori di ruolo, esatto. Dei personaggi giocanti. Ma l'ultima volta che abbiamo giocato. Beh, no, quando gioca da metà game. Temevamo di essere abbandonati a noi stessi e per fortuna qualche spirito della foresta ha ascoltato le nostre preghiere e dovete sapere che una domanda qua noi vediamo proprio la vigna, no? Davanti a voi iniziano tutte le e i cacciavite. Una domanda. E dietro vedete la e la sensazione è che sia una vigna in salute oppure proprio vediamo. Oh, è arrivato il botanico, Sei allora vinicoltore? Sì. No, vabbè, però la se tipo è tipo sono delle ragnatele, sta tipo morendo con i verdi. Cioè, ragnatela la vigna può anche essere in salute. Siamo a Barovia, quindi tu dici c'è la ragnatela. No, ragnatela no, però effettivamente non stanno bene, non sto okay, benissimo le piante. Ma tu si ma io non capisci un cazzo di vigna. Ma il tuo cazzo di biglio di verde e buttati. La scena è questa. Questa vigna non è in salute, è un cartello stradale quel. Questa vigna era sotto, c'era scritto qua non c'è nessun vino, non fa più uva, ma quello è mio figlio, non cresce più nulla, però se lo apri esce esce della roba rossa, stradlo per me. Non c'è pace mio figlio, non fammelo dire così, è vino, paladino, non fai morire. Onestamente sono in imbarazzo a chiedere a voi viaggiatori un fare un favore così grosso, ma siamo in grosso pericolo. Ok. Sempre la gente che appena qualcuno è arrivato, scusa, te lo dico io com'è. Vuoi saperlo come andrà? Siccome la vigna non funziona più tanto bene, ci potete dire un posto dove fanno del vino, dove poterlo comprare rivendolo? Se solo questo. Vi dice da diverso tempo sia la nostra famiglia è presa di mira dalle tribù del bosco. Magari. Le tribù del bosco che erano qui prima di voi. Io non so, che creature sono? Sono una tribù di druidi e di gente selvaggia. Ole ole ole ole. Il Vinarku. Dovresti distruggere la vigna. Forse devi vistare. No, no, sono pisci di vistare. No, no, sono gente dei boschi. Sono dei druidi che li rompono il cazzo? Sì, sono delle tribù asservite al conte. Di druidi asservite al conte? Che falsi! Come? Purtroppo, praticamente. Con ogni druido? No, tutti. Dei traditori? Ci faccio otra volta io. Come so praticamente bene. Tutte le tribù di queste terre. E hanno deciso di metterci bastoni tra le ruote dopo anni e anni di pacifica convivenza. Vigna, togli per qualche spazio motivo alla foresta. È vero. Hanno... Ah, sono adesso però la coscienza malvagia del gruppo da lontano. E hanno scatenato su di noi una marea di esseri di malvagi esseri vegetali. Tipo questi! Non temete, siamo qui. E ve li descrive, sono quelli che avete incontrato. No, sono amici miei allora. Non temete. Siamo qui giusto appunto per aiutarvi. Vi ringrazio di cuore. E si dà il caso che con noi ci sia il più potente di queste creature malvagie. Ci sia un uomo che conosce la foresta. Sono un come io conosco la... Di chi stai parlando? Abbiamo un sei accordo con 8 livelli, un conoscitore 5. Stiamo organizzando un matrimonio, ci servirebbe del vino. Un conoscitore della foresta come nessuno mai. Proprio nessuno conosce mai più. Tu per quale motivo sei qui? Per distruggere la vigna. Fuoco! Io sono liberato il fiume. Francamente ce la vedremo con Isengard. No, il motivo per cui io sono qua, visto che sono l'unico che non beve, è quello di scoprire per quale motivo non arriva più vino in città. No, dicevo il tuo personaggio. Il background, quella tua cosa. Ancora perdere tempo con questo background. Io sono 7, la mia idea 3, il mio legame 4, il mio difetto è 2. 2? L'avrei detto molti di più. No, no, io sono qua perché ho incontrato loro. Ma mi stai chiedendo veramente la storia della mia vita? No, te la stavo chiedendo io per vedere se la ricordavo. Che falso sei? Il gioco di roleplay, cazzo. Pensavo che tu parlassi proprio druido. Scusa, scusa. Era grado di fare danni e respiration. No, perché io mi sono unito alla compagnia perché siamo incontrati nella taverna. E la mia idea era di liberare queste zone dal male. Bravo, per il tuo circolo druidico te perché l'ho non morti, dicendo sì, che... perché non morti, sono creature di merda perché sono contro la natura. No, davvero aveva del background? Gli avrà fatto cata, mi ha dato. Non mi sembrava facesse una fatto cata, una cata di che c'erano delle cose che oscure nella foresta. Quindi, 4, 3, 4, 2. Comunque... puoi sospettare che abbiano qualcosa a che fare col motivo per cui ti è stato mandato. Cioè, c'era una cerchia di druidi cattivi. No, scusate, però, mi hanno dato, però nessuno mi aveva mai detto di un'esistenza di questi druidi cattivi. No, nessuno. Ah, okay. No, ti hanno detto vai ad indagare. Cattivi. No, ok, vabbè. Sì. Bene. E vi spiegano la situazione. Sono promosso. Sì. Tu dovresti essere contro l'industria, Arce. Anzi, Patk. Qual è l'industria? Del vino. No, io sono contro i druidi adesso, quelli che hanno fatto. Dovresti essere contro l'industria, sei un druido. Ci sono... Non sono ubriaconi! Ormai 5 giorni fa li abbiamo visti arrivare, erano 3 membri della tribù, della gente delle foreste. E uno di loro impugnava un bastone strano. Fatto di legno, no, guarda, come di tanti vitici. C'è anche l'oggetto magico. Se ammazzi, e agitando quello nell'aria, abbiamo anche l'oggetto magico. Se ammazzi, come richiamato questa orda di esseri vegetali e semoventi. Quantità mai viste prima ci hanno soverchiato e siamo dovuti fuggire dalla nostra mappa. Questi druidi sono umani? Sì. Ora gran parte di queste creature occupano l'esterno della casa, ma nel momento in cui si mimetizzano tra le frasche sono indistinguibili da delle normali piante. E quindi sono loro che vi hanno potrebbero essere simili a quelli che abbiamo incontrato loro. Sono quelli che avete incontrato. Okay. Per cui è difficilissimo anche solo avvicinarci alla casa dove potremmo barricarci per difenderci dagli quindi attacchi esterni, perché non riusciamo a capire da dove ci assalirebbero. Potrebbero essere dietro ad ogni arbusto. Dico, beh, tuttavia, per quanto possiamo sicuramente aiutarvi in questo, il problema va risolto alla radice. Sono d'accordo. No, io non sono d'accordo. È un felice gioco. Rictavio ti dice, potremmo escogitare un piano. Cosa? Come osi. Cos'è un piano? No. Sciocco. Si improvvisa. No. Cioè, quando l'abbiamo fatti hanno sempre fatto. Lo guardavi Stranger Things. Hai visto già la terza stagione? Ti sembra che abbia posto la concentrazione per seguire un piano? Volevo fare una citazione di una puntata, ma Salla, non avendolo visto, ha salvato Giulio dallo spoiler. Anch'io. Perché se lui invece aveva visto, chi se ne frega di Giulio? Sì, l'avrei citato. No, bastava che ci fosse uno con cui condividerlo, ovviamente. Dai, condividi. È più bella della seconda, la seconda ha fatto schifo. Madonna, tantissimo. Sì, sì, perché la seconda ha fatto. Secondo me ha fatto la tattica di fare la seconda inguardabile e che così la terza, anche se veniva fuori un po' storta, comunque veniva bella. E io ho visto la prima 3, è incredibile, cioè bellissimo. Comunque, ma se serve il piano. Secondo me diventa che più figa. Diventa che più figa. Tardo dice, potremmo cercare di distrarre quelli che stanno all'esterno per darvi una possibilità di entrare dentro la vigna, dentro l'edificio, e barricarvi all'interno e poi da lì approntare le difese. Sì, cioè, noi dobbiamo però il discorso è, cioè, dato che dentro ci sono i druidi. Quanti? Ha detto che quando sono arrivati erano tre. Ah, poi dentro proprio la casa, scusa. Oh, vabbè, rega, ho tutto sto bordello. Abbiamo sventrato la casa. Beh, allora non ha senso farli andare in casa. Allora, prima dobbiamo liberare la casa dei druidi. Oh, grande, Lezio, buongiorno. Era quello che stava dicendo. Vai, attacchiamoli. Ok. Allora, Rectavion, adesso esaminiamo la situazione. Cerchiamo di sacrificare molte persone. Per distrarli. Tu, bambino. Questo ci penseremo noi e cercheremo di farlo nella maniera più efficace ma anche più sicura possibile. E voi nel frattempo cercate, uno, di individuare la strada migliore per raggiungere l'edificio. Due, mentre casa sarete non è vicina. In mezzo alle vigne. Propongo però. Quindi voi dovete cercare qual è il modo migliore per passare attraverso queste piante. Visto, senza farvi visto l'imbrunire, proporrei di aspettare l'alba però per l'attacco. Aspettare qua fuori la notte potrebbe essere più pericoloso. Non viene che andare con lui. Beh, volevo recuperare allora qualche incantesimo. Saremo più in svantaggio noi di loro. Mi sa che il set non lo usa. Perché? Quindi hanno scura visione anche loro. No, no, l'ho usato. Di scura visione, anche tu scura visione. E al di là di quello loro si possono trasformare in qualunque bestia. No, il problema non sono i tre druidi ovviamente. Sono decine e decine. Beh, vabbè, di ma scusami, loro sono stati scacciati già da tempo, quindi sono sopravvissuti qui comunque. Sì. Quindi decine e decine di sti cazzi, li dissolviamo tutti a pedate. No. Sì, per loro, cioè, sono allo stremo delle forze, chiaro, sono riusciti a tirare avanti fino ad oggi, però vabbè, per loro magari riescono ancora a tirare avanti 2-3 giorni perché evidentemente sanno il fatto loro, per il problema siete voi. Però voi che dovete risolvere il problema che loro non riescono a risolvere, no. Potreste non sapere. Vai Atanas quando serve. Vabbè, Atanas! Qui ce la possiamo... No. Riposare un po' per recuperare le forze. No, aspettare qua fuori la notte è un suicidio. C'è senza di morte. I bambini con i piedi d'uva possono sopravvivere. Noi siamo degli stranieri. Evidentemente loro sanno il tutto loro. 15 combattimenti al giorno. Andiamo. Bene. Allora. Io sono sul lettino d'ospedale a farmi trapiantare le cose. Prima fase. Ah, non ce lo fa il piano. E farete quello che vi dico. Funzionerà. Schiavi. No. Farete una serie di prove e a seconda di quanto bene le supererete, verrete più o meno malmenati. Oh, hai paura di non superare le prove. No, lo sto dicendo io a te. Posso chiederti indicativamente quanto dura questa cosa? Perché in teoria io sto cercando, devi andare subito. Sto cercando di velocizzare il più possibile in modo da. Oh, però ci sono io in mezzo tra l'uscita e te. Gioca, io. Voglio svegliarmi presto domani per andare in pale. Allora puoi rimanere. Vabbè. Dai, cerchiamo di velocizzare anche in questo modo le cose. Allora, Davian fa un fischio e arrivano un paio di corvi che si appoggiano sul suo braccio. Gli faccio un fischio e Frank esce e mi viene sull'altro braccio. I corvi gracchiano a Frank. Frank si spaventa. Sì, cazzo. Frank Castle! E vi dice: tenete, vi seguiranno e potrete mandarceli se avrete bisogno. E sono addestrati. Mi spiega. Gli altri tempi. Il piano si divide in quattro fasi. La prima fase è l'investigazione. Avete l'opportunità di controllare il terreno e farvi dare indicazioni anche da loro per stabilire qual è il percorso migliore da fare. Prima prova. Potete decidere appunto come usare le vostre abilità per stabilire questa cosa. Quindi vabbè, io posso fare una bella conoscenza di sopravvivenza. Sai che non ho capito. Anche. Sono signore atletica. Oh! Brutto! Cattivo. 20 davvero. 20 davvero. Prova un più 6. Cioè adattiamo le nostre abilità, approcciamo nel modo a noi più consono, quindi questo sai cos'hai? Allora, usare la fase all'investigazione. Quindi tu puoi usare le tue abilità per vedendo questa situazione cercare di capire qual è il percorso migliore. Oh, e non puoi fare ignori per modi. 20. Poi hai fatto in 26 sopravvivenza, praticamente trova la strada per il Dorado. Vabbè, atletica in che modo? Così. Athletics. Vado su un albero. Chiaramente Athletics no, in questo caso non si è una battuta. Io sono in un lettino sdraiato, non ci sono, cioè. Vado su Athletics, vado su un albero. Beh, non è necessaria una prova, però va bene. Sei su un albero. Vado su fare? Vado su un albero. Fa le trazioni. Per poter vedere dall'alto qual è il percorso migliore. Ah, tira perception, non Athletics. Genio. Perception faccio cagare, no? È come dire, io faccio perception per trovare un albero sul quale salire. No, Athletics la facevo per no, c'è in Fumble che c'è una che vuole sempre usare sopravvivenza per sopravvivere. Allora, scusa. Aspetta. Vabbè, io faccio sopravvivenza 26. Sì. Io faccio survival. La faccio 19 in survival. Anche. Okay. No, però è più divertente quando all'inizio con la con Ranger me lo usare sopravvivenza. Farla proprio sopravvivenza per sopravvivere. Ok. Che ironia. Allora, di fatto perception e survival in teoria è uguale. Beh, uno è. Non in italiano. No, nel senso come. Scusami, era puramente come numerico il mio. Come... Ah, il modificatore dice. Allora. No, non ha senso che tu faccia sopravvivenza solo per fatica. È differente. Cioè, ognuno sceglie il modo di approcciare. Tanto trova un modo. Va bene. Voi due riuscite a notare quali sono, attraverso le tracce che scrutate, i punti in cui si più frequentati, in cui si nascondono gli arbusti. E quindi riuscite a tracciare un percorso che gli passa il più possibile lontano. Voi due chi? Voi due. Cioè, io ho fatto 26 e avevo anche bisogno di questa specie di palla al piede. Che cosa quanto hai fatto? Tu? 19. Beh, no. Vabbè, ogni tanto ti facevo delle tracce per farti creare. Vabbè, dai, ha fatto. E quindi avanzate alla due slot di meno di te. Avanzate alla fase successiva. Io ho più 3, non ho più 20. Vabbè, avete fatto. Avete trovato voi la strada. Ah, cioè, non devo. Non... No, l'hai fatto 19 totale. Ma non dobbiamo farlo tutti, scusami. Due pensavo lo facesse ognuno per sé. No, le CD vanno di 5 in 5, sono 5, 10, 15, 20, 25. Tu sei andato oltre 25. Ognuno di voi può fare qualcosa. Sì, sì, avevo capito che per forza ognuno di noi dovesse fare. No, chi vuole può provare. Volendo puoi andare avanti bendato. È un successo molto superiore. Lui segue noi. Sento l'anatas nella mia testa ancora. Sì. Fase 2. L'ottima idea. No. La fase 2 è quella dell'evasione. Uccidili tutti. Sì, mio padre. Dovete scappare il più velocemente possibile mentre appunto gli altri Evasion è più la fase di stealth, quindi dovete procedere il più possibile nascosti. Caso stealth tu con la natura completa, dai ragazzi. Per cercare di fare più strada possibile per non essere visti. Ok, visto che è di gruppo, allora. Ace. Vabbè, ma io potrei fare invece. Schifo. Potrei attirare gli arbusti. Allora, potete fare diverse cose. Tipo, ditemi qualcosa. Da fuoco alla vigna, vedrai che gli arbusti cambiano strada. Sì, è quello che volevo fare io. Ovviamente è stato specificato che è importante che la vigna non venga distrutta. No, ma l'avevi detto. Adesso che l'hai detto, lo vabbè, so. Brucio la vigna. Le cose sono due, o andiamo tutti in stealth. Però brucerò io appena arrivo io. Vabbè, le cose sono due, o andiamo tutti in stealth o creiamo un diversivo. Io faccio una prova di intuizione per capire qual è l'abilità che posso usare tra le mie tre. Quali sono le tue tre? Perché ha fatto due con Dato. Ha fatto due, è indubbiamente percezione. Beh, hai natura? No. Allora. Sei un druido senza natura? Perché ho preso fuori dentro. Potevo vai scegliere tra natura e fuori dentro. Quale delle due? Quella che preferisci. Furtività 21. Ok. Sì, vabbè, Sava dice i numeri a cazzo. No, sentite quella ne hai avuto anche più. Vabbè, ultimo 8, raga. Capito, ho detto furtività 21. Senza neanche tirarlo. È un'applicazione. Sì. Anche io uso l'applicazione. 30. Credo... Esatto. Cioè, ha senso fare un diversivo? Secondo vedi voi? Faccio così e tiro. Perché in stealth tutti non ce la facciamo. Quanto hai fatto? 20. Sì. Cosa dici? Cioè, creare un diversivo non per forza con mesca noi. Cioè, facciamo casino in un punto e noi andiamo in un altro. Tipo, dai fuoco a qualcosa e te ne vai in un'altra direzione. No, senza dare fuoco alle due potrei andare l'alce. A fare da diversivo. Distruggere la vigna, sì. Fallo, ti prego. No, che magari tipo attira l'attenzione su un altro lato, facendo tipo sì dei muggiti. Quello intendevo. Perché può farlo uno di noi, ma poi quello lì rimane da solo e muore. E tra l'altro non muggisce. No. Cioè, non penso che vada ad attaccare l'alce. Sì, sì. Vai. Faccio io? Verso mandi l'alce a distrarre. L'alce va da un lato, comincia a muggire per richiamare il branco. A me è quello del cervio. A me è quello del cervio, che si chiama tipo alcisce. Alcisce? No, è bramisce. Bramisce. Come il cervo? Alce bramisce. All'odo della trilla. Grazie. Non so, è scritto okay qua. Anche se volete sapere l'allocco la vostra furtività e il diversivo che avete inscenato vi permette di arrivare alla terza fase, che è quella della scappare. Ma come? La rondine ormai garrisce zinzilula o cinguetta? Io sapevo che garrisce a seconda dell'umore. Qua mentre il rondone garrisce basta. No, ma in realtà io sto facendo una cosa molto stupida. Potrei darvi bless. Potrei darci bless. Da un D4 un po'. Vabbè, non direi che in questo caso ci serve. Sono prove di gruppo. Bene. Un'altra starnazza. Fase della corsa. Un'altra starnazza. Dovete decidere in quale parte della tavola cigola. Dell'edificio dovete entrare. Cigola. Sono diverse entrate, vi aveva spiegato Davian. E così allora, io questo non l'ho usato di fatto. Un po' si deve fare. C'è la fazzoletta di carta, ragazzi. No, l'aquila urla. Sì. Urla dell'aquila. Sì. Se ne fai male, si. Usa quello. L'aquila. E fa così. Pensavo essere un altro no. No, è un po' sporco, l'ho usato per pulirmi la bocca dopo aver mangiato la pizza. No, ragazzi, non è urgente, non ti preoccupare, pezzo, massimo. Puoi anche alzarti e andarlo a prendere. Ma vabbè, ragazzi, vicino. Avete quattro porte. Se riprendo un fazzoletto sbagliato si arrabbia e mi dà addosso. Il cane fa un sacco di cose. Scodinza. Abbaia, ringhia, guaisce, latra, uggiola, ulula, mugola, gagnola e guaiola. Sono i sette nani quindi. Le sette nani. Guaiola, guaiola, sono guaiola. Abbaia, ringhia, guaiola. Uggiola, ulula, mugola, gagnola e... Sono le sette nane veramente. Che cazzo sono, ragazzi? Iola. Vest, tranquillo, Vest, devi stare a fabbricarlo, un fazzoletto non importa, eh. Stanno a buttare giù un naso. La civetta stride, coccoveggia o mugola. Cata, fai l'operare allora, in fretta che non pensi di soffrire. Avete quattro porte da scegliere. Sta andando... Sto andando a comprare, anche il gatto ne ha molti di meno del cane. Nagola, soffia. No. Ma tranquillo, non è un problema. Ronfa, fa le fusa, ustola e gnaola. Gnaola è l'ottava nana. Giusto, ma sei sull'ercio.it. No. Il maiale grufola, grugnisce, grugna, strogola. Sì, ma grufolare non è un verso. Non è tipo quando va a ravanare tra le cose. È un verso. Il merlo fischia, zufola, chioccola, zirla, canta e ripete. Cosa stai facendo? Lo so. Passo il tempo. No, piano angelo abbiamo qua. Grazie. Magari, cazzo. Dovete scegliere la porta alla quale dirigervi. Ok, cioè, hai una pianta, una facciata, sì, qualcosa, se no. La prima sono le stalle. Ovviamente il piano terra è quello in mezzo. Mi devi stare un momento sulle quark. Poi di fianco alle stalle c'è il praticamente dove vengono il montacarichi, dove vengono caricate le botti sui carri. Uh-huh. E poi di fianco ancora c'è l'ingresso all'officina del praticamente la falegnameria dove vengono costruite le botti. Uh-huh. E quello centrale, però. Sì, pianta, terra, sì. E la poi c'è la veranda, che è quella, c'è la doppia porta e non si capisce molto praticamente, guarda le finestre, a sinistra. La veranda, sta dicendo le porte, dobbiamo scegliere questa, lo so, ma le finestre sono questa chiuse, qua è l'altra, sono è la doppia porta, sì, le finestre sono sbarrate. E a questo al piano terra non ce ne sono molte, ce n'è una qua, no, non ce ne sono, no, queste qua sono finestre. E allora, come vi dicevo, c'è quella delle stalle, che è quella più a destra, e che le porte non sono chiuse. Mm-hmm. Ma è la stalla. Poi c'è il cavallo, esatto, è il mio nemico, il montacarichi. C'è una laterale con la scaletta dal pozzo, quella lì quella che dà di fronte alla latrina, dice, sì, vuoto, volendo c'è anche quella vuoto, c'è quella, sì, una centrale, una quella dove scarica la roba che ha aperto e una dietro, dice. Il pezzo è 16, la doppia porta è quella delle stalle, no, io andrei da quella dietro, però da quella dietro o da quella laterale? Quella del latrina, sì, la latrina. Ah. Che dite? Dove dici tu? Quella della latrina, questa, quindi? Sì, che è l'ingresso principale? No, no, quello principale penso che sia della latrina. Ah, è questo qua, scusa, hai ragione, quindi questo, quello un po' dietro, laterale, forse un po' così. Che cos'è questa prima stanzetta che non ho capito? Scusami, Katta, ma non ho capito, voi volete andare lì perché la porta davanti è chiusa? Tu sei... No, scegliamo, dove scegliere la porta al quale entrare, dalla quale entrare. Perché non si andare alla porta principale? Non c'è una porta, ci sono diverse porte. Sai cosa? Scegliere quale preferire. Siamo in 4. Sì. Andiamo. Magari qui era carino riuscire a entrare già in coppia, cioè qui se uno entra c'è un pericolo, gli altri stanno fuori, come dire, è stretto. Vabbè, scioma, come dire, siamo in gruppo, cioè, l'unico dove riusciamo a entrare tutti è dove è già aperto. No, beh, anche qui sono doppia, sì, ma doppia, ma lì è dentro. No, è una veranda, questo è esterno. Una veranda, però della veranda dovrebbe essere più facile individuarci, cioè. No, non ci sono finestre, la veranda è libera. Allora, sopra c'è il piano sopra. Sono due porte che si aprono. No, no, dico, cioè non c'è nessuno qua. E c'è, cioè, la veranda. Secondo me è quella dove siamo più esposti, anche però. Mentre di lato magari è un po' più imboscata. No, no, hai ragione, però no, entriamo per forza una alla volta. Ci sono i cessi dove i grappoli vengono schiacciati per dove fare il mostro. E ci sono quelle porte scorrevoli che però sono chiuse da una catena praticamente. Mm. E sono, cioè, entriamo nella stessa stanza di fatto. C'è la catena, invece quella laterale non lo sappiamo, dobbiamo andare a vedere. Già. Dai, andiamo da quella. Altrimenti c'è vuoto. Se no, okay, era carino anche dal montacarichi. No, va. Non ti piace l'idea? Devo vedere questa. Ma ha deciso di no. Allora, andate per quell'entrata che porta al magazzino e al l'officina del vetraio praticamente. Che è lo stanzotto piccolino, no? Te lo dico subito. Vuoto. Colpito. location dazzo. No, il 10. No, è quello più in basso. Il V10. Questo. Sì, è quello lì. Vuoto è il magazzino. Cioè quello da dove entrate voi. Non è necessario, come si dice, forzare l'entrata. La porta si apre tranquillamente, ma appunto nella corsa per raggiungerla venite dagli arbusti, escono degli, diciamo, spuntano degli arbusti maligni che cercano di placcarvi, e nel farlo vi graffiano e vi lanciano addosso delle spine. Per evitarle, quindi, dovete farmi un tiro salvezza sulla destrezza. Dovresti andare il tiro salvezza aumentato? A livello 6, mi sa. Se uno non ce l'ha, semplicemente tiro sulla destrezza. Esatto. 13. 15. Non ho svantaggio, vero? Sì, no. Con la natura completa sì. Eh? Con la natura completa sì. Solo allo spell. Ah sì? Mm-hmm. Se gli mettono il piede sotto i piedi. 18! 15 o K. Ok. 13. Riuscite ad evitare tutte le spine e le zampate che vi arrivano addosso dalle piante. Entrate quindi nel magazzino. Quindi inizia l'ultima fase del piano, che è quello di barricarsi. E dovete trovare un modo di chiudervi dentro in modo che cioè non ho capito, cioè, non ci sono i trumi dentro? Sì, però da fuori ci sono sti piantine che stanno arrivando, quindi dovete chiudervi. Ci barrichiamo dentro. Questa è la più facile da barricare in teoria. Ma io non ho capito, siamo entrati da qui, siamo qui. Sì. Questa in teoria è la più facile da barricare, è piccolino. Poi abbiamo un sacco di legno delle botti, quindi. Cosa c'è? Delle botti? Ma c'è, qui c'è addirittura il dove fanno le botti, quindi basta prendere delle assi qui. È finito. Barricchiamo tutte le entrate. Sono 4. È pieno di botti qua. Sono 4 le entrate. Cioè abbassiamo. No, dovete barricare questa. Poi penserete al resto. Ah, okay. Beh, dai, qua è pieno di botti. Prendiamo delle botti e le abbassiamo lì, dai. Se no prendiamo delle assi e un martello in chioda. Su Athletics. Guarda, ci sono tutte le botticelle lì. Scusa, ma la facciamo prima inchiodarla. Sono le assi e i chiodi. Fai dei chiodi. Se costruiscono le botti, c'è tutto. Se trovi la cassetta degli attrezzi, va bene. No, c'è la stanza che è dove fanno le botti. Secondo me, comunque, per vincere ci conviene, dove fanno le botti. Darle le botti, non prenderle. Sì, ma comunque, lì è più là. Le botti qua le abbiamo già qua, quindi le prendiamo. Comunque qua siete entrati in un magazzino. Ci sono tutte le assi e tutti gli attrezzi di cui allora potete avere bisogno. Dovete farmi una prova per chiudere sta porta. Athletics stavolta. Vai. Ma no, Vez, qua è palesemente in percezione. O intuizione. 15. Totale. Ma cioè, può avere vantaggio se lo aiuto. Sì. Ma basta che prima lo facciamo in due. Okay, lo fa. Lo fa, quindi devo tirare l'altro? Lo fa anche lui, o dai, vantaggio? Se no lo faccio anche io. Tanto tu qua hai atletica, no? Sì. Però lo faccio anch'io. Beh, ha fatto uno col dado, un bell'otto. Quindi che era meglio il vantaggio a lui, c'era un motivo. Non ci barrichiamo mai. Beh, 15 dai. No, delle montagne. Provaci anche tu. Metti che fai 20 di dado. Oh, forse zitto adesso. Sì. Due col dado. Carina, in Atletics ho meno uno. Giulio, tira anche tu. Anche se non ci sei, fallo per noi. Ma l'aso in teoria. Io posso tirare, ma. Vabbè, tira. Ma l'aso secondo me in questo periodo. Sarà più se l'unico che può fare 20 con quell'applicazione. 20! Io ho tirato 19. 9? 19. Ma aspetta, ho vantaggio perché mi dà una mano l'elfo. L'elfo ha. Quale elfo? Avrei fatto 25. Sta facendo il diversivo insieme agli altri. Scusate, se do vantaggio uno che ha già vantaggio. Avrei prende fatto 4 25. Hai ragione. Va. Nessuno deve dare vantaggio. Vabbè, comunque un 15 maggio. Io sì. Lui, dai, barricare la porta con due assi, dai. Barricchi la porta con due assi. Sentivo se lì che. Io mi sono tirato una martellata sul dito, sono fatto uno. Tu sei lì che fai? Dopo questo legno d'acero potrebbe essere migliore. Okay. Mi sto scappando con le dita. Ora io propongo. C'è la porta che dà sul. No, sulla stanza dove ci stanno le taniche della fermentazione. Cosa fate? Perception per sentire il rumore. Sì. Eventuali movimenti. 14. Senti il provenire da sopra il rumore di assi che percolano. Dal piano di sopra, quindi qualcuno che cammina. Ok. Quella stanza lì è fatta con un cioè un camminamento soppalcato. Ho capito. E posso anche guardare attraverso la serratura di questa porta se ce l'ha. Faccio un altro tiro o sempre questo? Quanto hai fatto? 14 era, se no faccio un altro tiro. Va bene quello. Vedi che c'è lungo il pavimento delle piccole creature fatte di ticci. Quindi sono anche dentro? Sono anche dentro. Vabbè, vedi che si muove e cerca un nascondiglio. Questa creaturina. Ok, sussurra agli altri che ci sono altre creature simili già dentro che si stanno. Che stanno cercando di nascondersi. Ma in questa stanza? Nella stanza delle taniche. Ho guardato dentro la serratura della porta. Quindi o aspettiamo. Cioè, che avrete solo sentito. Sì. Però abbiamo solo. Sì, abbiamo sbattuto per... Vabbè, cosa avresti fatto tu? È la stessa cosa. Per questo dico, entriamo e facciamo. A quel punto sì. Quante sono? Ne ho viste tante. Grazie. Hai vista una. Solo una ne ho vista. Ne ho vista solo una. E hai sentito dei passi da sopra? Io ho sentito dei passi al piano di sopra, perché mi ha spiegato in questa stanza quello che si vede poi qua. C'è un camminamento sopra qua. Quindi probabilmente c'è una persona che se noi entriamo nella prossima stanza ci vede. Tuttavia, siccome siamo in un cazzo di sgabuzzino, non è molto utile stare qua. Quindi o facciamo un diversivo strano. Le cose sono due. Allora, se ci ha visto solo la bestiolina e non la persona che è su, possiamo aspettare un po' per vedere se è la persona. L'unico che può fare robe strane è Salla. Hai capito cosa ho detto? E al momento si sta masturbando. Esatto. Che oltre ad esserci una bestiolina, qui sul camminamento c'è una persona. Ok. È già finito. Magari non ci ha percepito quella persona. Se aspettiamo un attimo, si sposta in un'altra stanza, se ne va e noi usciamo un attimo. Allora, è una casa talmente cosa. Senti la gente che sbatte contro le porte attaccata. Sanno che siamo dentro, quindi più agiamo velocemente, meglio è. Hai ragione, allora andiamoci. Faccio un'illusione per distrarre la creatura. Ma prima che ciò avvenga, faccio un'illusione per distrarre la creatura. Prima però, posso fare un bless, no? Fai un bless. Pre iniziativa. Mi dai un di 4. A tutti voi, forza età. Ma l'eventuale combattimento lo facciamo adesso o volete? No, signore, che devo andare. Allora, facciamolo un combattimentino, dai, siamo qua. Sono 51. Sali. Beh, 10 minuti facciamo. No, sì, questo sì. Dai, questo sì. Bless, dai, tutte e tre. Pa. Se avete un attimo. Sì. Se è davvero 10 minuti, sì. Sì, dai. Io a mezzanotte devo andare. Vai. Iniziativa. Un vantaggio. Io vi ho fatto bless a tutti e tre, sfigatelli. Quindi cos'è? Un di 4? Ho vantaggio. Potete aggiungere un di 4 al tiro per colpire oppure più di salvezza. Ah, oggi è per l'iniziativa. Allora faccio a me. Io faccio 6. Io? In realtà potrei. Io 8. Oddio. Ragazzi, non sforzate. Io 6. 8, 8, 6. Dai, cosa siamo il gruppo? Sì, ma io dico prima le signore, conigli, druidi di merda. Merda. 90 la paura. Che schifo, ragazzi. Ci stiamo cacando sotto. Bene. Sta a voi. Ovvio. Ci stiamo cacando. Ah, sta a voi. Vai, cosa entriamo. Fatto? Chi sta il primo di voi? No, uno dei due che ha fatto 8. Prego, Saladini. Tu cosa hai fatto? Ma scusate, li vediamo noi. Adesso davanti a voi c'è una porta. Ah, davanti io allora, Salla. Forzati. Sì, magari dopo che ci siamo il guzzino. Perché cominciamo a stare stretti. Però, figo, io se entro, il tavolo solo in mezzo esplode lo sgabuzzino. Io entro nella porta. Ci apro la porta. Sopra. Anzi, sfondo la porta. Ok. Davanti a te ci sono questi. Fai una prova di atleti. Questi vasconi di fermentazione. E su un parapetto del soppalco c'è questa donna vestita con pelle tutta scapigliata e con un'amica. Esatto, ha una gonna fatta di pelle d'animale. E quanti metri ho fatto, scusami? Non è per entrare nella descrizione che mi interessa un sacco, ma quanti metri ho fatto per entrare nella stanza io? Esatto, hai appena sfondato la porta, hai fatto 1,5 metri. Ok, qua a che distanza è la tizia? Dammi la mappa. Qui. Linea d'aria è 15, ma è 15. Sì, 15 piedi, ma è... Ah, 15 piedi però? Sì. Vabbè. Ma è 10 piedi al piano di sopra. È al suo palco. Sì, però se io ho 9 metri di scalare ci arrivo. 9 metri. Che sono tipo 30 piedi. No? Cioè, passo il muro? No. Come orso, ovviamente, eh. Sono 10 metri di battimento, ma 10 di riflessione su... Cioè, con un'azione arrivi poi 30, no? 9 metri sono 30 piedi. 10, 20, 30 arrivi qui. Dipende, se diventi un animale magari è più veloce. Ma di scalare mi sa che è 9. Arriveresti al 30 piedi di scalare. Arriveresti dal parapetto. Quindi quanto distanza da lei? Un metro e mezzo. Quindi non riesco ad attaccarla comunque. Se usi tutto il tuo movimento. Arrivi di fronte. Quindi posso attaccarla? No, perché dovresti usare tutto il movimento, scusa, hai ragione, dovresti usare anche la tua azione per muoverti. Vabbè, le vado davanti, divento un orso. O diventi un orso e le vai davanti. Per uguale. No, perché. Se vuoi scalare. Questa qua la faccio scalando. Sì. Ok, allora divento un orso e vado davanti. Oppure scali, okay. 30 piedi da mano e poi diventi un orso. Vai Race. Quindi lui è arrivato dalla tipa o no? Sono a un metro e mezzo, faccio così. Allora io vado dalla tipa. Tipo il cane che arriva alla fine della catena. Uso il movimento e il dash per arrivare dalla tizia e attaccare. C'è un problema, lei è piano di sopra, lui ci è arrivato perché ha una velocità di scalare. Non so delle cazzo di scale in sta stanza. Sì. Fai. Tu ti muovi di 30? Più il dash. Il dash di quant'è? Altri 30. Ah, merda. 10, 20, 30 e 1. Poi fai il dash. 10, 20, 30. Usando il movimento e il dash arrivi a 15 piedi da lei. Sparale qualcosa. Cosa sparo? Le lancio un pugnale. Ok. sì. 19 di dado. Colpito. Puoi aggiungere un D4 se non ti basta. Faccio 5 danni. Ok. Ah, arrenditi! Il problema è che mo anche lei diventa un orso. Era spartiano. Perché no? Ah, Diventa un orso. Diventa un'orsa, lo prende nel culo dall'orso. La monta. Più che no, diventa un orso, diventa. Se lei diventa, se rimane una donna, non è detto che mi piaccia. Giusto. Diventa un porno orso. Un porso. Allora, mentre voi due che siete arrivati di fronte a lei, vedete che stava armeggiando con delle boccettine con del liquido strano. Il vino. E lo stava versando in queste bocce di fermentazione. Ah, falso Aida. E poi gli altri due hanno avvelenato il terzo. Quindi questa è lì sopra. Mm-hmm. E basta. Giusto. La bestiolina non si è vista. La bestiolina non si è vista. Lo faccio prima chiederlo a te, ci arrivo io da montone. Come una quanto noce. Ti muovi? 35. Però al massimo arrivo davanti a lei come ha fatto. Ah. Vuol dire no, perché io di 60 sono arrivato a 15 piedi. Al pelo ci arrivo. 35, no, tu sei a metà strada. Perché non è dove. Però io non devo fare la strada che ha fatto lui, io posso camminare sulle pareti. Tu cammini sulle pareti. Perché tu cammini sulle pareti? Perché sono un montone. Il mio animale totem è un montone. E percorre praticamente. È il mio animale totemico. Che schifo di animale? Scusate, è montone. Sui grattacieli. Certo. Perché li chiamano montoni? Perché si chiamano così? Questo lei adesso. Prendo la scopa per tirare giù quel montone su. Vabbè, ma io approfitto del passaggio di Sceo e poi dopo faccio il mio movimento. Con un movimento sei a 15 da lei. Quindi io faccio un altro movimento, però non ha senso che sia addosso. Ma perché abbiamo fatto tutte queste cose di stealth? Io potevo prendere tipo l'alce e cavalcare. È l'unica presenza, la bestiola non si vede. No, vuoi fare un perception? Gratuito però. Guarda, no, mia, quando io andrò a mezzanotte, di che giornata? È durante il tuo turno. E, va bene, arrivo a 15 da lei e faccio un perception per vedere se trovo l'altra bestiolina. Ma lei la sua azione è stata per rovesciare da sopra la sua. No, lei ha fatto meno di voi iniziativa. Okay. Idiota. Secondo per non gigante. Vedi presenza di altre esseri. Bardistram. Okay. Giusta osservazione. Adesso fa questi step. Ah, non è più incantesimo. Dacci un fai un riposo. Sarebbe un suicidio. Fai quella cosa bella che avere incantesimi con cui combattere. Un suicidio per i miei PNG. Dimenticavo. Non ho fatto essere umanoidi, ma nelle travi del soffitto ci sono un sacco di corvi che vi guardano. Cazzo. Beh, anche noi abbiamo i nostri. Frank. Ah, giusto! Frank è tutto ciò, è su di me. Sì. Ah! Devo tirare per iniziativa? Vabbè, Massimo. No. Perché no? Agisce quando agisci tu. Massimo. Allora doveva agire prima. Massimo. Arrivi davanti a lei, la tua scimmia muschia. Va a strangolare. Massimo a velocità, non ha senso farlo athletics perché non mi darebbe vantaggio in più. Cioè, non c'è la possibilità di. Com'è la favela il parapetto? È quello tratteggiato. Cioè il problema è che bisogna salire su un posto lontano. Ma sono già tutte arrivate. Parapetto è quello tratteggiato. Se no, per salire bisognerebbe fare la scala. Fai quello che fare più. Oppure saltare. E arrivare lì, e sarei già lì. In teoria. Ma arriveresti dove Arci. Vuol dire e poi avanti a lei. E poi colpire se riesco. Non nello stesso turno. E poi tornare indietro e. Ci sono due movimenti per arrivare da lei. Faccio un salto. Sì. È comunque la distanza più di 30 no, perché piedi. Devi fare la prova di atletica, che è l'azione, e poi è giusto. Tra sì, è vero. E però ci sta è figo. E poi al massimo se fallisco. Se fallisci cadi nella. Io avrei fatto come Venzo pure avrei bruciato tutto. Dici? Se fallisci cade nel vino. Certo. Allora, cioè, proprio automatico, neanche senza più. Uno! Posso dargli vantaggio? Non mentre posso essere avvelenato. No, posso dargli svantaggio? Se cadi dentro il vino, scusa, però... Se mi sta cercando di stare su, e io con l'orso... Vai, ci stai con quel figo, dai, lo faccio. Dai. Non puoi ammalarti, è Oh, 22. Cade nel vino. Allora, tu è, appunto... Se tu stai salendo su e io ti do delle zampate, dà lo svantaggio, no? Cadrà nel vino, dai. Ti aggrappi per, sì, fai per tirarti sopra. Ah, sì, ti aggrappi, cosa ti dici? Dai, si rompe. E quindi arrivi di fronte a lei, sì, e in tutta risposta lei ti dice Thunderwave. Ah, che ironia. Che ironia. Siamo là lì davanti un orso da due ore. Salla che sta cercando di fare il furtivo e focussa. Quello che arriva. No, Thunderwave colpisce tutti. Non me no, tutti. Sono immune. Vai. Sono immune io all'elettricità. È un tiro salvezza. Non è elettricità. Io però sono l'unico. È sonoro. Tuono. Sono immune. Sono cosa c'è sonoro? Certo. CD. Sono CD12. Beh, non ci di merda. Ah, vabbè, siamo io l'orso. Sono la destrezza, però. È un orso sordo. CD 12 sulla destrezza. Costituzione. Ah, ma tutti lo fanno, mi sa. Costituzione. Tutti quanti. Costituzione? No, yes. Costituzione. Costituzione. Ah, 17. 12 di base più quella dell'orso. 17. Che è meno 1. No, è un Constitution saving throw. 17. Abbiamo già fatto carta, dai, No, vi prendete comunque metà dei danni. Una? Metà dei danni. Però non venite sbalzati. Come funziona? Non ti ricordo mai. No, se arrivo. C'entra la concentrazione. Perché ho bless su di loro. Bless, puoi dire qualcosa di giusto? Bless a concentrazione. Allora CD 10 sulla costituzione. O io metà dei danni, perché due maggiori. 5 danni. Ok. Quindi devo tirare CD 10. Segna Giulio. Direi che è segnato. Sì, sì, quanti ne ho? 50. No, perché hanno 34 dell'orso. No, cazzo no. E... anche meno polemico. C'è per la maestra. E allora? Quanto fa? Dal vascone che adesso sovrasta. Concentration up to 1 minute. Ecco dove è andata la bestia. 19. 22. Ti hai ricopiato le cose. 21. Sì. E vedete che non c'è vino, bensì è pieno dei vostri amici arbusti. Non è vero, nella mappa c'è il vino. Dentro i... dentro i tinozzi? Sì, dai, adesso... ma sono detto che è pieno di gente. Dai, sono dei... ma basta chiudere le botti, eh. Esatto. Vabbè, poi questi hanno tipo 12 punti feriti. Beh, se ci finivo io dopo potevo combattere subito. Che non c'è bear, a brown bear. Ah, ma dopo mi ci butto. Brown bear. Dopo mi ci butto. Brown bear. Cioè, se Arci sparasse due incantesimi sarebbe già finita. Solo che Arci si trasforma in orso. Sì, che con gli incantesimi sparo. I lupi. Proprio mi fa invocare i montoni. Ah, perfetto, spara dei lupi. Oh, cos'hai contro i montoni? Da questa botte escono questi arbusti, saranno più di una ventina, e in contemporanea i corvi dalle travi scendono giù per ghermirli cercando di contrastarli. E ogni sciame di corvi sono... scusa, i corvi sono beccati il Thunderwave? No, i corvi stavano sul tetto. Scusa, beh, i corvi combattono contro gli arbusti? Vabbè, sono distratti. 15 piedi. Ma adesso devo spiegarti tutto. Ma scusa, Strad è dalla parte dei lui. Sì, ma non lo sanno i corvi. I corvi hanno visto me che sono un druido. Trasformarmi. No, i corvi. Lei ha rovesciato una ponzetta. I corvi sono anche uccelli. Ognuno un corvo. È andato anche noi, ognuno un corvo personale. Ma è vero che sei arrivato il corvi sulla... top, dominante, vai. E voglio andare a uccidere. Corvi, corvi, corvi. E quindi niente, vi assaltano. I corvi. No, i corvi assaltano i bene, gli arbusti. Dai, e vedete che ogni sciame di corvi... riescono ad arrivare su così facilmente. Eh? Riescono ad arrivarci su. No, non è che sono arrivati. Noi notiamo, siccome ci siamo sopra, che è pieno. Insomma, siete voi che siete da loro, che siete arrivati da loro. Noi da siamo sopra le botti, queste cose grandi adesso. E abbiamo botti visto sono sotto di noi però adesso. sì. No, i corvi sono sotto e le botti sono sul tetto che volano giù. Ma come fai ad arrivare sopra? Scalando come avete fatto voi. Ah, stupidi. Sparta! Esatto. Esatto. Ah, quindi attacco di cosa, ragazzi, cosa farebbe Tante Giulio? Mostriciattoli di legno dentro una botte di legno. Io avrei bruciato dove tutto c'è dall'inizio. Anche del vino che quindi è alcolico. Esatto. Ragazzi, vai. È fatto. Allora. Ma lui non lo sa e brucia. Ma lui non lo sa e brucia. I quattro sciami di corve prendono un arbusto a testa e lo portano via smembrandolo. Sì. Gli altri rimanenti vi assalgono. Terza armatura dell'orso. 12. 5. Beh, ha colpito tipo con 2, forse 3. Ma direi 5. No, scherzo, 11. 11. Allora 3. Che orso di merda, che orso di burro questo qui. Butter bear. Sì, ma 11 di CA, cioè. Per quello ha colpito con 3, se non avrebbe colpito con 1. Quindi se ti ha 5 a testa, non c'è. 10 danni. Sì. Poi, Garrosh. La tizia. Ah no, mi ha fatto la classe armatura. Sì. Sì, io non volete parlare. Ah, qui ha fatto due critici ad esempio. No, vedi giusto. Cazzo, 18. Questo però ti manca. Cioè 3 su 5 con classe armatura 18. Ha fatto 2 20 e un 19. Oh, cazzo, facci livellare. Perché non riuscirò a tenere i blast digits. Questo 19 danni. Minchia. Però tu hai 62. 10 minuti perché moriamo. Guardi sarà 16. Hai qualche riduzione? Sì. Minchia. Senti il potere. Qua, anche l'altro. Minchia. Non più 3. Quindi picchia di questi infami bastardi. Come cazzo tira carta? Hai 12. 12 danni. Devo fare una mana. 10. Race. Oh, 16. Tengo il bless. Attenzione, ah, vero, pure di 4 eventualmente. Ti ha preso con 2. Sono. Con un cazzo, Salla. 8 danni. Ah, fai 4 danni. Cosa, dodge di mezza, quindi 6 danni. Sì, sì, sì. Ok, bene. Tocca a voi. Tocca a me. Vai. Sfioci nella troia. È il D4 se vuoi da aggiungere. Aggiungo il D4 alla troia. Io ho 2 attacchi. Okay. Questo è con il bite. 5 di dado. Tira il D4. Aggiungiamo il D4. 6 col D4 più e più 5 11 più 1 perché c'è sale corpo a corpo 11 col morso. Vabbè, allora cazzo, sta manfrina lì perché tu hai 11 19 minaccia per il critico, confermo. Quindi totale faccio 2 di 7 1 di 8. Controlla che non imbrogli per farlo. Sono 2 di 6 del coso, quindi 19 danni. Boom! 10 più 8, 18 danni. Però sta male, ma ancora in piedi. La tipa? Sì. Vai. Finiscila! Sto vado anch'io sulla tizia. Vai. Vai, Salla. Io e te ci buttiamo nella bocca. Che cosa fai? Disingaggi schiena, da. Schiena. Se posso disingaggio di nuovo sulla tizia. Tanto lo puoi fare come azione bonus. Ah, c'è Nicole giù, vero? Allora, la figa. Colpito? Giù. Tira i danni. Magari rischiacciamo qualcuno. Colpisco con quanti, scusa? Intanto tira il primo. Col primo ho fatto appunto 17, col secondo 13. Colpisci con entrambi. E che forse, forse muore il primo. Senza forse. Anzi, sicuramente muore il primo, ha detto K. Aspetta che penso che sia tipo a 1 quindi 4. Ah, 4 di vita, Salla. Ah, 4 di vita. 21 danni. Muore. Esplode. Bravo. Ma il secondo attacco se c'è una portata può farlo. Sì. Sì. Sicuramente sono 3 danni. Su Vez. Adesso li faccio su Vez. Poi. No, ecco, faccio su un albero. 3 danni a un alberello. Sì. È ancora in piedi. È ancora un alberello. E vai. Allora, l'idea sarebbe stata scenograficamente fighissima del noi buttarci dentro la botte schiena a schiena a lottare. Ma abbiamo chiesto la storia della vita di Scema. Ah, sarebbe stato adesso sono usciti dalla botte. Sono usciti tutti? Sì. Ah, se no era figo niente. È il momento di andare nella botte. È il momento esatto. Vabbè, allora combatto con Pericolo intorno. E signori, è stato un piacere. Ovviamente sono in ira. E niente, il caricamento non lo posso fare. Non lo sei circondato. Quindi no. Attacco. Primo attacco 21, direi. Sì. 3. Questa è la storia. 11 danni di Gluck. More. Secondo attacco su un altro. E 20. 25. Tutto. E sono 9 danni. Muore. Cazzo. Vardestra. Divine favor. Sulla mia spada. È la spada laser. Finisco gli incantesimi. Ho sbagliato, potevano andare in ira. E cominciavo a picchiare un po'. Sto usciamo. Dai, Bez! 21. Colpito. Arrivi. Mi piace che Giulio è rimasto disabile. Hai ragione, sì. Povero Giulio, tirami un po' di attacchi. Okay. Dai, vero, prima di qua. Giulio sta facendo, lo stanno assemblando come con gli Stranger Things. Allora. Cos'hai capito? Niente. Ecco. Era una domanda retorica, non aspettavo. Però 16 danni da uno. More. Secondo attacco. Aia. 13. Colpito. È vero, ma però posso ritirare il giuro io. Anzi, devo ritirare il giuro. 7, 10, 14. Danni. Yes. More. Boom boom. Eh sì, sono, ha ragione nel cazzo, sono un cazzo. Cioè, ci vuole più tempo a tirare i dadi che ucciderli. Vai, ora sta l'ora. Mezzo, otto, un quarto. Quanti dadi danno? Sai, ce ne sono 5 addosso ai primi due, all'orso e al ladro. Ok, faccio io. E 3 e 3. 5 sull'orso. Giulio. Giulio. Ho beccato un 4. Intanto faccio quelli sul ladro. 20, 20, 20, 20, 4, 20 e tirato 3 dadi. Dovete 3, 3, 3. Su voluto. Su 2, 3, 3. Sono 12 però danni non, su... Però non ucciso la tizia. Su di te. No, tanto vai a 7 da voce. Che merda sei? Perché Atlas mi sta attaccando? Non sono io che sto attaccando. Chi sta tirando? È la sua voce che ti fa danni nella testa. Falso, che merda sei? È la sua voce nella mentre testa. Gli altri su Race fanno 12 danni. Ah, perché? Ok, quindi fanno 10. E poi fai 3 su Garrosh, io faccio 3 su Vardistro. Non te la dici? 18, dai. Non mi prenderai mai. No, il solito 20, no. Ho preso solo una volta. 19 e l'altro però non l'ho preso. 5 danni. 8 danni. Allora, devo tirare per entrambi gli incantesimi due diversi di concentrazione, sì, o uno solo? Per ogni attacco che ti è arrivato. Non puoi avere due incantesimi di concentrazione. Ah, Perché no? Perché non c'è ma uno è sulle altre persone. Ma sei tu che tieni l'incantesimo. Vabbè, bless ha dato, sì. Vabbè, tanto non ha una classe armatura talmente bassa. E ha dato anche di base. Sono inutili i miei incantesimi, sono da me. Vabbè, in questo caso è perché hanno la classe armatura bassa. Ma io sono tutti concentration i miei, quindi non posso far niente io in realtà. Per tenere una alla volta. Smaidare, esatto. Smaidare come se non ci fosse un domani. Sono tutti i miei Race o pack? Vado io. Sì. Quanti alberi c'ho in tu? 5. Minchia. Focus sugli alberi. Quindi 19 il primo tiro, il secondo di più. Totale. E tirane uno alla volta perché uno muore e l'altro. Cioè. Vediamo. È molto probabile. 11 danni al primo. Muore. C'erano 4 punti feriti. 8, 12 al secondo. Muore. E Race. Allora il primo faccio tanto, faccio 25. Colpito. E sono. 6 danni. Muore. Il secondo attacco faccio fumble. Ok. Guarda, guarda, fumble. Quello che imbraco di handicappato. Il secondo 24 colpisce. E 8 danni. Muore. Bardistron. Fumble. È 22. Tanto sono in ira con tutti gli alberi. E sono... Ma c'è sti fiori che arrivano. Così. E l'altro è 12. Preso? Sì, no, 13. Però stanno tutti urlando. La 11 lo beccava. 13, 13. La, il druido aveva 11. Vado in bagno, raga, perché poi forza, dicono, chi vuoi tu? Dicono tutti io sono Groot. No, mi faccio quelli su Arch. Quanti sono? 3? Su Arch sono diversi. Beh, beh. È falso, Giulio. Quanto hai, dici, ha? 11. Cazzo, non ti becca. Cosa dice Ando? Guardi i nuovi commenti. Ti becco solo una volta. 5 danni. Ma come ci sei? E anche a Race 5 danni. Sei sopra. Di mezza ne ora. Sei sopra, sei quindi... sopra. Ecco. Quindi sono 4 danni. Ma è pranzo verso il sonno? Sì, ho fatto 2 danni. Sì, e di giocare. Che cos'è? Fai. Sono 3 danni. 3 e 2, 5. Di mezzo a questo. Nessuno di voi giocava a piante contro il sì, è Plants vs Zombie. Ah, ecco cos'è. Sì, è vero. Posso fare una cosa stupida, cheat. Grazie Ambra. Sacco di cose stupide. Grazie Ambra. Garrosh o Bardistro? Dai, vado su Garrosh. Quanti ne ha Garrosh? 2. Quanto hai? 10 17. Ah, uno te becca. Io 18. Ho fatto 18 col danno. Il tuo Bardistro, classe armatura? 16. 3 danni. Ti manca. Vai, Race. Vai, Race. Pianta le piante. Pianto. E ammazza. 2 di dado, 9. Colpito. Come colpito? No, hai ragione. Sì, no, 13. C'è l'arbusto stupido. E poi c'è quello contro Bardi. Esatto. Sono cose di tre dragoni. Tipo, gli viene così. Esatto. 9 danni. Muore. Sopravvive. 9 danni. Dai, Garrosh, Bardi, ne avete 2 a testa. Dai, se fare. Io li finisco. 15. 15. Sì. E sono 8 danni. Morto. Anzi, in realtà sono più danni, vero che non conto mai morto. L'ira. Vabbè, 19 di dado e 7, 9 danni. Morto. Vediamo i due miei. Oh! Fumble! Fumble 1, l'altro è 14. Che brando di incappato. Questo posso anche ritirare. Morto. Ok. È rimasto uno. Quindi. Allora, è rimasto uno su Bardistron e 3-3. Fa la vittoria. Ma non devi attaccare lui? Sì. No, ah, devi attaccare. Chiaramente stupra. Andate in bagno. Becco con questo. Ah, forse anche l'altro comunque. Quant'è? 13. 5 più 4, 9 danni. Se stai attaccando i suoi è tipo 17. Quindi 2 su Arci. 2 su Arci. Ancora 2 sono? Sei più forte. Ma ti hanno beccato tutti e 2. Troppo forte. 90, paura. Sono 5. Resti colpisce solo uno? Ma ti sono rimasti di fianco di queste cose? Un danno. 5 danni, quindi perdi la forma da orso. E vado, E vai a 52. Un danno a Race. E poi provo ad attaccare Bardistron e lo manca. Quanti sono queste cose? Vai. Ne rimangono 2 su 5. Di te e 1 su Race. Uno su Race. Io ne ho 2 su Pat. 2 su Race, 2 su Pat che ah, 2 su Race. E uno su Valdestrom. Vai. Pat. Ancora? Sì, perché hai fatto il ritardo. Questo blu è l'artiglio. Ti sei ritrasformato? Ah no, cazzo. Allora mi vabbè, mi ritrasformo. Beh, non tengo sul tiro. Un po'. Cioè come vuoi, puoi fare. Uno era 17, no? Sì, uno becca l'altro, no. No, mi ha fatto il pauso breve. Sì, sì. Allora sì ce l'ho. Non sto a ritirare. Giusto. Quanto hai fatto? 17. Uno becco e l'altro no. Ok. 2 più 4, 6 danni. Morto. Race? Sono di nuovo 34. 20 non naturale dal primo. Mm-hmm. E sono 15 danni. Ok. Morto. E 10 col secondo che manca. Sicuro? Vai, io li ho finiti, hai finiti chi, chi attacchi? Puoi farlo tu. Dai, ammazzami il mio che ci vado a letto. Quelli, ne ho uno io. Vai, vado dai, su. Guarda che fa uno questa merda adesso. 12. Mancato. 13 la casa armatura. Puoi provare, vabbè. Guarda. Ma no, sono... hai secondo attacco, no? Sì. Puoi provare. Dipende dalla tua scheda pensando... che... Per questo attacco dipende dalla prossima scheda. Stripping. 10 di dado, quindi 17. Dalla 12 danni. Vai, stavo. Il era quello di. Mi pare. Race e guarda. Ho 20. 20. Morto. 9 più 4, 13. C'è un ultimo. Sì, quello su Race. 13. Bam! Morto. Ti ha detto 9, 4, 13. 13, 13! Abbiamo ucciso 21 avversari. E se non basta questo, salire di livello. Abbiamo ucciso un nemico a minuto. Gatta. No, non basta questo, dovete finire tutta la... Abbiamo ucciso in media un nemico al minuto e non te la finire di livello. Sono anche morto. Ho fatto una stanza. Sì, però sei a 3 livelli, cioè cosa. Ho capito che questa andava sbloccata, però nel frattempo mi ha fatto altre 150 chest. Doveva venire subito alla vigna. Doveva venire subito alla vigna e basta, era l'unica cosa da fare. Cioè, non possiamo neanche dire che siamo andati in giro a diventare più forti, perché Katta ci ha ritenuto nel suo livello. La prossima volta che Vez farà il master sarà perché un mondo... non siete andati in giro. La prossima volta che Vez farà il master Katta sarà un mondo pieno di... sei cose, Katta. Con gli altri abbiamo fatto tipo 4 livelli in 2 mesi. La prossima volta che Vez farà il master sarà un mondo pieno di vino, ne sono sicuro. Tipo vino gratis che esce dai rubinetti, così. Fontane di vino. Va bene, avete visto il 20° episodio di, della maledizione di Katta, che continua su noi perché continuiamo a non salire di livello. E vi ringraziamo. Quindi per averci seguito. Maledizione Katta. Maledizione Katta. Vi ringraziamo per averci seguito. Vi saluta anche Giulio Bosi. Noi siamo Tycoons and Dragons. Continuate a seguirci sui nostri canali social di Tycoons and Dragons. E a RGR e buon. Buonanotte! Tan tan tan tan. E buone botte. Buonanotte. Non so se riesco a chiudere. Addio. Ciao. Ciao Salla. Ciao Sallino. Ciao. Aspetta, Giulia è morto. È andato in bagno. Quindi più o meno. Quindi può essere. Ciao.